puntata. Hai visto che mi ricordo del tuo nome? Una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ci sono coccodrilli e un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, gatto, topo, elefante. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Un vino è nella foresta, andò. Ogni tanto smettendo con internet, apro il governo italiano e capito quando viene fuori da King, io resto secco. Io sono anche un amante degli animali, per l'amor del cielo. Ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però i lupi anche ci ho avuto. Però quando vedo uscire delle, non dico che, delle sembianze d'orangi, resto ancora sconvolto. Non c'è niente da fare. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. La cosa più incredibile è che nelle sue pseudo giustificazioni di oggi, il vicepresidente del Senato, speriamo ancora per poco, anche se però bisogna aggiungere qualcosa su questo tema di chi dovrebbe dimettersi per le offese, il vicepresidente del Senato Calderoli dice: beh, però io non ho detto che assomiglia ad un orango, ho detto che ha delle sembianze d'orango, delle sembianze. E poi sbaglia anche il nome, hai sentito Davide? Dice Kinghe. E pronuncialo bene sto nome, no, la devi insultare e dillo bene, cazzo, sto nome. Come può fare simpatia a paragonare qualcuno ad un orango, ad uno scimmione? Non l'ho paragonato, ho detto che se, anche se non mi sembra ai lineamenti in quel senso, e avevo appena detto che sarebbe un'ottima ministra, una ministra in Congo. E rispetto al ministro King, veramente voglio dirgli, sarebbe un ottimo ministro, forse lo è, ma dovrebbe esserlo in Congo, non in Italia. Perché se in Congo c'è bisogno di un ministro per le pari opportunità, per l'integrazione, c'è bisogno là, perché se vedono passare un bianco, là gli sparano. E allora perché non va là? Che mi rallegro un pochino l'anima. Servi di Roma fuori. Senza dubbi. Caro David, non è la prima volta, non è la prima volta per Roberto Calderoli. Vogliamo ricordare qualcosa, ma io non ho capito bene. Secondo te si deve dimettere, sì o no? Ma immediatamente, ma non lui, ma perché il problema non è soltanto lui, poverino, ma c'è anche l'assessore leghista del Veneto che a un certo punto ha detto è stato offeso l'orango, cioè voglio dire, è tutta la è questa Lega 2.0 del signor Maroni che a un certo punto deve decidere di andare a casa, via, anche l'assessore leghista Veneto. Non permettere al tiranno di accecarti. Vabbè, da dove partiamo? Dalla porcata, vai, Calderoli, la porcata, la legge elettorale. È d'accordo anche lei, pur essendo estensore, co-estensore della legge che andrebbero reintrodotte poi le preferenze, se no diventa un proporzionale nel maggioritario con nomine. Ma guardi, questa legge qua non scrive una porcata, glielo dico francamente. Ho sentito bene? È una porcata, la scritta lei è una porcata. Sì, sì. La libertà. Una volta disse: rischiamo di diventare un paese di ricchioni. Guardate che qui non solo rischiamo di fare il paradiso dei terroristi, è un tempo noi eravamo un popolo di santi, di eroi, di navigatori, ma diventeremo anche un popolo di ricchioni. Senza dubbi né ripensamenti. Incendiò le leggi inutili in realtà non cambiò nulla nella semplificazione delle leggi italiane, perché le leggi italiane e in generale è tutto più complicato da allora, cioè non servì a nulla quel fuoco acceso da Calderoli, nulla, con un giaccone, ti ricordi, un giaccone di pelle, sembrava Bruce Willis, sembrava. Poi la maglietta anti-Islam 2006, sentiamo. Credo che tutti debbano essere rispettati, non esiste al mondo che si venga a casa nostra a volerci imporre le tradizioni di altri, per cui io voglio che ci sia un riconoscimento dei diritti, e la mia, con la mia t-shirt è una battaglia di libertà. Poi lei non ci crederà, ma lo indossa anche adesso. Grazie, grazie. No, ma guardi, è proprio qui se vuole. Quindi non ha rinunciato, ha disobbedito. No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia questa. Riconoscono i nostri diritti e poi dopo toglierò la maglietta. Qui c'è il loro, il mio di Dio, e nessuno si è mai sentito offeso. Padania bella e libera, guardava. Siamo qui, la Zanzara, 800240024. Poi c'è Radio Padania, ovviamente. Abbiamo raccolto qualche perla dagli amici di Radio Padania. Abbiamo raccolto qualche piccola perla. Di oggi, freschissima. Oggi molto fresca. Per esempio, senti questo qua che dice: senti la sciura abbronzata, bello questo. Senti. Ritorno alla sciura, questa abbronzata. E dico, ma perché poi dire queste cose? Il gorilla, l'orangutanga sono animali che sono abbastanza tranquilli, vegetariani, eccetera. Io vorrei ricordare, perché purtroppo qualcuno se lo dimentica, e ovvio non si può ricordarsi tutto, che nel 61 i nonni o i papà di una certa signora invece non erano vegetariani, perché si sono fatte, scusate la brutalità di questa espressione, si sono fatti uno spezzatino dei nostri piloti che andavano a aiutarlo a casa loro, dei nostri aviatori. Cioè gli antenati della Chieng erano dei cannibali in sostanza, e se mangiavano gli aviatori italiani, europei che andavano lì. Ma come vengono in mente certe idee? Io non capisco. No, ma non detto, mica da stupirsi. Cioè, detto questo... Detto, dei dirigenti, sì. Sono, ma io pensavo, sai che pensavo che lo giustificassi oggi Calderoli? Chi, io? Oggi mi ero svegliandomi stamattina a un certo punto quando ho visto questa parola, no. Vediamo come il signor Cruciani difenderà. No, io non difendo Calderoli, però ecco, vedi, cosa c'è di diverso? Però in fondo un orango che malecea. No, cosa c'è di diverso da quelli, da quelli rispetto a Calderoli? Quelli che danno del nano a Brunetta o danno del ciccione a Ferrara, è evidente, non sono vicepresidenti del Senato, dunque non si devono dimettere da nulla, su questo non c'è dubbio. Però che differenza c'è? Quelli che danno del grassone a Ferrara, quelli che storpiano i nomi in senso dispregiativo, quelli che danno del nano a Brunetta, mi dici che differenza c'è? Nessuna. No, lì parlavamo di polemiche fatte da comico. Ma non c'è, no, ma quando mai? Eccetera. Dario Fo non è una cosa da comico, è una battuta, è chiaramente politica. Parlavamo dei spesso comici, si dà dei politici. No, si dà del ciccione anche a molti, danno del ciccione a Ferrara, comunque sì, la differenza è il razzismo contro il cattivo gusto, quindi sono due cose diverse. Un altro ascoltatore non gli ha detto troia o bacca, ti giuro, queste parole esatte. Invece si indigna perché un ministro gli dice che rangutango, che lui quando andavamo a scuola dice che ne faccio da rangutango, per dire, non penso che gli abbia detto che è una troia, che è una vacca, come gli hanno detto anche a tanti ministri. Senza dubbi né ripensamenti. Siamo qui, con l'ex moglie di Calderoli, Sabina Negri, buonasera. Buonasera, ho intrasentito, eh. Che succede? Come intrasentito? Ha sentito un cazzo? Scusi. Come ha sentito? Ha sentito, sì, ha sentito. Ho sentito tutto, cazzo. Signora Negri, ma è vero innanzitutto che Calderoli, il suo ex marito, ha questa abitudine di affibbiare un nome di animale a tutti i politici, a tutte le persone, oppure è una cosa che si è inventata così oggi nelle interviste per cavarsela d'impaccio? Ma no, ma sono quelle battute, no, che uno fa ogni tanto, le fa, ma lui è fatto così di suo, anche con me, cioè ogni tanto. Cioè lei come la definiva? Scusa, come la chiamava? No, però ascolti, il più bel complimento che mi ha fatto quando poi, cioè, mi sono poi innamorata di lui, un giorno mi guardò e mi disse: hai la più bella mandibola e la più bella mascella del chirurgo maxillofacciale, le so riconoscere. Quella è una questione di qualità, capito? Vabbè, ho capito, ma adesso... Cerca di parcellizzare e quindi prende i pezzi. Ma perché fa il medico? Ma è vero o no che dà un nome di animale, affibbio un nome di animale ai politici? Beh, insomma, ma no, ai politici non lo so, però a volte... No, mai sentito parlare di questa cosa. scherzando, dai, si dice, diciamo anche noi, no? Quello lì assomiglia al suo cane, quell'altro, cioè... Vabbè, si è inventato una cazzata, dai. No. Si è inventato una cazzata, ma dai, le cose gli vengono così anche nell'intimità, oppure diciamo nell'intimità è ancora più bestiale, diciamo, nella sua nelle sue manifestazioni. È una gioia bestiale nell'intimità. No, però voglio dire, la cosa secondo me sbagliata è soprattutto le donne, un po' contrariamente a quello che avete detto voi sugli uomini, eccetera. O si attaccano sul fisico o si attaccano sul sesso. A me è questa la cosa che non mi piace tanto, insomma. No, però scusi un attimo, ma lei ride per le battute di Calderoli, perché sembra essere uno fissato con le battute, eccetera. Ride o no? No, io non... Non ha mai riso? No, non rido, ma non piango, cioè nel senso che sono contro la drammatizzazione, insomma, a questo livello, pur facendo la drammaturga. Cioè, capisco che è iniziata la campagna elettorale. Ma quale campagna elettorale? Perché no, non c'è nessuna campagna elettorale. Era un comizio. Vabbè, ma un comizio, dai, cioè lei lo sta giustificando. Lei lo sta giustificando. Io non devo né assolverlo. Ma no, ma così come ex moglie si riconosce, si riconosce. Però voglio dire, certo, è stata una buttata di cattivo gusto, e penso che lui lo sappia, appunto, che si è scusato, e penso anche che il ministro abbia accolto le sue scuse, insomma. Vabbè, si deve andare via dal Senato, dalla vicepresidenza, sì o no? Beh, questo lo deciderà lui. Pare vabbè, ma questo che è sia chiaro. Un bravo vicepresidente del Senato, questo ha detto di tutti, dai grillini alla sinistra alla destra. Quindi non lo so, questo è un discorso di coscienza sua, ecco. Discorso di coscienza sua. No. Ma lei lo riconosce quando lui fa queste battute sull'orango oppure no? E poi lui a chi assomiglia come animale, il signor Calderoli? No. Ecco, però questo qui bisognerebbe chiederlo a lui, perché lui non... No, ma lo chiedo a lei, lei è stata sua moglie, che sia a chiedere a lui? A chi assomiglia come animale? Molti pensano che sia una specie di maiale. Ma no, dai. Ma non c'è niente di male, perché i maiali che c'hanno? Beh, non c'è niente di male, insomma. Niente, siamo tutti, non c'era la canzone? Una grande tribù, no? No, vabbè, insomma, adesso a me non piace fare questi parallelismi. Chiaramente tutta questa condanna toglie un po' l'opinione pubblica da chi? Da problemi anche un pochettino... Vabbè, adesso lei sta giustificando Calderoli, tu è ingiustificabile, signora Negri, su, è ingiustificabile. No. Dai. Allora, innanzitutto non sta a me giustificarlo, io dico semplicemente che le prime pagine dei giornali... È tantissimo. Ma se un vicepresidente del Senato dice che il ministro assomiglia a un orango, qualcosa succede o no? È vero che succedendo un casino, altro che. Va bene, traffico, torniamo subito. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia mi adorano perché sono pazze del mio sorriso, mi adorano perché abbandono il mio corpo. Pronto? Sì? Sì, cercavo Daniele Stival, buonasera. No, ho sbagliato numero. Ho sbagliato numero? Sì. Ok, grazie, scusi. E ti farò male, zanzare di casa mia, si sbronzano di me. Siamo qui, la zanzara 800240024, te lo ricordi che diede della bronzata anche a Rula Gebreal? Ma come no? 2006. La cruda verità. A questo punto, francamente, mi spiace, non so il nome della signora. Rula Gebreal. Quella bronzata, insomma, quella che diceva del deserto, del cammello. Sì, quella quelli che, ne ha si comportano come quelli che si sono comportati oggi, se torna nel deserto, tanto di guadagnato, veramente. Siamo qui a 800240024, volevo sapere da Sabina Negri, ex moglie di Roberto Calderoli, ma è vera questa storia dello zoo in casa dove c'erano praticamente tutti gli animali possibili e immaginabili, addirittura una tigre morse, divorò un gatto, una cosa di questo sì, tipo? Sì, sì, no, ma lui è un appassionato di animali feroci e selvatici. E lei come faceva? Come faceva? Sono scappata via, ma io sono scappata perché allora c'era poi il circo a Padano e ogni tanto c'era un animale da soccorrere, da portare a casa e poi da adottare, ma io circo Padano c'era. Come il circo Padano? Come no, ma come no? C'era il circo della Padania, certo, come fate a non ricordarvi? C'erano questi qua che era un circo. No, no, non in quel senso. L'aveva adottato poi Bossi, c'era il Circolo Nazionale Padano che girava con tutti questi animali. Il Circolo Nazionale Padano. No, scusi un attimo, ma la storia della tigre che ha divorato il cane dentro la casa di Caldoro, è vero? È vero, o no? Però io non c'ero più lì, basta, ci eravamo separati e quindi... sapevo di tutta questa passione, ma insomma non l'ho condivisa, ecco, quel periodo lì non l'ho condivisa. Comunque ragazzi, c'è un sacco di gente che ha insultato altre persone parlando di nani, parlando di altre cose che riguardano il fisico, nessuno si è indignato. O comunque nessuno ha invocato le espulsioni, nessuno ha invocato le dimissioni della vicepresidenza del Senato. Detto questo, secondo me si dovrebbe dimettere la vicepresidenza del Senato. Sì, si dovrebbe dimettere. Dico anche che l'ironia non appartiene a certe zone. Non appartiene a certe categorie. Cioè, voglio dire, bisogna saperle fare le battute, non tutti sanno farle, insomma, e quella gli è proprio caduta male. Cioè, non sa fare le battute. Io non l'avrei mai detta. Discorso, certo, se diciamo anche a lui, probabilmente la dice ancora. No. Ma lui che animale è? Che bestia è? Cioè, a che bestia assomiglia? Ma la cosa che mi ha fatto ridere è stato anche Speroni che ha detto che ha rincarato la dose, ma lì insomma è un po' una rincorsa che la spara più grossa, sono buttato così, insomma. Va bene, grazie. Certo, Marco da Napoli. Sì, no, io voglio fare una considerazione. Cosa? Che però, considerazione? No, che la gente dovrebbe davvero mettersi degli specchi in casa. In che senso? Perché francamente mi sembra che abbiano tutti degli specchi di legno. Perché ognuno che. Ma sì, ma tutti questi che danno dei brutti agli altri, dei deformi agli altri, magari se gli regaliamo un po' di specchi, cambia. Cioè, anche a Calderoli, dice lei, bisognerebbe dare un po' di specchi al suo ex marito. Gli presto i miei occhi. No, ma anche lui dovrebbe stare di fronte a uno specchio? No, io penso che lui si specchi abbastanza, magari più dentro che fuori. Ecco, appunto, cioè se fosse davanti a uno specchio magari eviterebbe di fare delle battute. Dai, quella... ma non soltanto lui. No, perché adesso... Non è, cioè, Paragone è diventato bello quando è uscito dalla Lega, ragazzi, questo vuol dire qualcosa. Cioè che la Lega imbruttisce? Un pochettino, non è che proprio li fa diventare bellissimi. Cioè se sei leghista alla fine sei anche un po' brutto, un po'... No, oddio, di belli sono tanti proprio. Va bene, grazie. Dorcas, grazie Torino, loro, chiesto loro. Come fa uno a chiamarsi Dorcas? Buonasera. Sono Dorcas, sì. Intanto faccio complimenti alla trasmissione a Cruciani e a Parisso. Sì, va, non ce ne frega sono niente. Non ce ne frega niente dei complimenti, vado al sodo, su. Sì, sono di Torino e vengo dal Congo. Ho deciso di intervenire per... Dal Congo, sì. Allora, ho deciso di intervenire perché basta. Ho detto basta con tutti questi insulti all'intelligenza comunque del popolo italiano e tutti gli stranieri. Va bene, a lei, come lei è del Congo, basta. Dunque è indignata per le cose di Calderoli. Questo l'abbiamo accertato. Cosa vuole aggiungere? Sì, veramente, io inviterei, faccio un invito, visto che questi della Lega sono così ignoranti, faccio un invito, ignorante sul Congo, faccio un invito, invitarli ad andare in Congo, a vedere il Congo, perché è inutile insultare, continuare a insultare, e poi queste insulti, noi che siamo qua in Italia, congolesi o non stranieri, abbiamo dei figli, certe battute non vanno dette, perché... veramente fanno del male, non fanno del bene. Fanno del male, benissimo, siamo a una banalità più totale. Marco da Napoli, buonasera. Cruciani, buonasera. Dica. Buonasera. Senta, molto velocemente, io voglio dire soltanto una cosa, così da ignorante in materia, volevo sapere, ma Calderoli non può essere cacciato o bisogna aspettare per forza le dimissioni? No, credo che ci debbano essere le dimissioni. Perfetto. E secondo, volevo, visto che viviamo in un paese dove tutti possiamo dare opinioni sugli altri, soprattutto dall'alto della sua carica, lui si permette di farlo, io volevo soltanto dire che per me Calderoli ha le sembianze di un pene. Di un pene? Che vuol dire di un pene? Di un pene, ma mi ricorda molto una testa di cazzo. Vabbè, ma così è, è gratuita questa qua, non è che... No, non è gratuita, è ma solamente ma non è un'opinione, fisicamente non assomiglia a quello che ha detto lei. No, guardi bene che può assomigliare, un po' le guanciotte, un po' di fantasia ci assomiglia. Vabbè, ma tutti assomigliamo allora da quel punto di vista. No, capito, c'è un tipo di linguaggio. Lui nello specifico ci assomiglia molto di più. Vabbè, Marco, lei ce l'ha con Calderoli perché... No, è normale. Ma dai, ma com'è bravissimo parente, ma come si fa a non averlo con Calderoli? No, ma dico, è normale, se uno si abitua a questo tipo di linguaggio... E sente Radio Padania come tu giustamente hai riproposto questa sera. Sì, parlano così. Con ascoltatori, questo. Per cui è normale dire delle cose simili, dire delle cose come quella lì, cos'è che ha detto? No, gli ha detto solo dell'orangotango, mica che è un figlio, mica che cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto quella lì? Sì, mica troia o... Mica una troia, gli ha detto soltanto che è una scimmia. Cioè, no, è normale, capisci che se è normale questo, può telefonare. Ormai ha promesso tutto, quindi per può me... Può telefonare questo BB qualunque e dire così. La soluzione è quella che Calderoli, se lo dico seriamente, deve riaprire il Circo Padano. Io non sapevo dell'esistenza del Circo Padano, ma ora che lo so, secondo me lui ha l'autorevolezza per fare il direttore del Circo Padano. Ma il Circo Padano c'era, se c'è, io voglio cercare su internet, Circo Padano. Sì, c'era. Giuro. Che c'è qui, io, molto bene, molto coinciso. I responsabili del Circo Padano. Perché voglio sapere. Pierluigi da Verona intanto, mentre Circo Parenzo Padano fa le sue ricerche. Pierluigi da Verona. C'è veramente. Cruciani, buonasera. Vada. Niente, io volevo porvi invece una questione di carattere etologico, visto che si parla di animali in questi giorni. Io volevo sapere da voi se il giaguaro ha una dignità maggiore rispetto a quello dell'orango, perché tra l'altro a me risulta che l'orango sia decisamente più intelligente del giaguaro. Ecco la genialata di Pierluigi. Allora, qual è il punto? È perché si è parlato di giaguaro con Berlusconi, Bersani per tutta la campagna elettorale? Questo? Ma cosa c'entra? Ma non è in senso negativo. Qualcuno dice hanno dato a Berlusconi del caimano, ma non c'entra un cazzo. Siamo sinceri, siamo chiari su questa cosa qua, Pierluigi. Non c'entra nulla quello che hanno detto a Berlusconi, non c'entra assolutamente niente, perché non ha a che fare con le fattezze fisiche, eccetera. Qui c'è Calderoli che da vicepresidente del Senato fa una battuta pesante su un ministro che dice dovrebbe essere ministro del Congo, peraltro aggiungendo quello che avete sentito tutti, che ha le sembianze dell'orango. Non è che lo dice così come definizione, come battuta, lo dice proprio in senso dispregiativo, perché un orango, quando lo dice, quella è una scimmia. Ma è chiaro che lui, Gesù, la mia era chiaramente una piccola provocazione, ma faccio riferimento a quanto ha detto lei prima, che quando danno del nano a Brunetta va bene, se qualcuno si permette di insultare la parte avversa invece non va bene. Ma infatti secondo me non va bene nell'uno nell'altro, chi dà del nano a Brunetta in senso dispregiativo e ha carichi istituzionali dovrebbe dimettersi. Fatto sta che fino adesso il nano a Brunetta, credo l'abbia detto una volta, o comunque battute sull'altezza di Brunetta le hanno dette in tanti, magari non erano vicepresidenti del Senato in quel momento, non lo so. Vabbè, ci sentiamo dopo il giornale radio, 800 24 00 24. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara. Lei ha parlato proprio di cittadino padano, cioè di un cittadino della inesistente Padania. Lei ha parlato proprio di cittadino padano, cioè di un cittadino della inesistente Padania. Le ho risposto, lei non sa che allora c'è il grana padano e tante altre cose. Sì, ma... Prendila, prendila, scazzala, scazzala, ti ha beccato. Era un Calderoli alle prese con Enrico Lucci alle Iene, 800 24 00 24. Abbiamo sempre a Radio Padania un conduttore che si chiama Panza, sentite che dice sulla Chienghe, piagnona. La zanzara è l'imprendibile insetto. Certo è che oggi il ministro Chienghe fa la vittima, fa la piagnona, oggi sono e abbiamo avuto in questo caso un po' la responsabilità, o forse la colpa è quella di far passare un ministro che dice, al netto del colore della pelle e della sua provenienza, delle cazzate. Oggi fa la piagnona. Bah, fa la piagnona. Che vuol dire fa la piagnona? Sarà insultata. Piagnona. Poi questo Panza dovrebbe, conduttore di Radio Padana, dovrebbe fare delle lezioni a Calderoli su come si pronuncia il nome della Chienghe. Signor Panza, che nulla c'entra con Panza invece. No, diciamolo. Credo che questo sia Panza con la Z. Ecco appunto. Ma a proposito di cazzate del giorno, c'è anche quella della Boldrini, la quale si dice contenta che la Rai non farà più Miss Italia. Ora, cosa diavolo c'entra il presidente della Camera con una trasmissione televisiva Miss Italia che la Rai ha deciso di sospendere per motivi suoi? Non sto qui a contestare, non me ne frega assolutamente nulla, non ho mai visto un frame 30 secondi di Miss Italia, non me ne frega niente. Ma cosa c'entra il presidente della Camera sul no alla Rai per Miss Italia? Boh, è un mistero. La stessa Boldrini invoca una sorta di parità di trattamento per la donna, che secondo lei è presente solamente con il 2% in televisione. Solo il 2% delle donne in televisione parla, il resto è muto e svestito. Certo che c'è una fissazione col fatto delle donne svestite, c'è una malattia, c'è proprio un'ossessione del considerare una donna svestita come qualcosa di indecente, come qualcosa di improprio per una donna. Ma se uno si vuole svestire, saranno cazzi suoi o no? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ultimatum di Letta a Maroni, una vergogna gli insulti alla Kyenge, risolva il caso Calderoli o si rischia lo scontro totale, nessuno provi a coinvolgere il Colle. Da tutte le forze politiche dura censura al vicepresidente leghista. PD e SEL al Senato, deve dimettersi. Maroni si è scusato, ora basta. Caso Ablyazov, SEL e 5 Stelle presentano la mozione di sfiducia ad Alfano. Il PDL lo attaccano per far cadere il governo. Berlusconi, non ho incontrato Nazarbayev. E dopo il voto della Camera che ha rinviato la decisione sugli F-35, ora tocca al Senato. Le opposizioni determinate a bloccare l'acquisto dei caccia. Lavoro, Giovannini convoca le parti sociali per discutere di flessibilità. Dura la Camusso, già troppo precari, così non si crea più occupazione. Caro benzina, il ministro Zanonato bacchetta le compagnie, basta con gli aumenti. E intanto scatta la protesta dei gestori, da domani sera distributori chiusi sulle autostrade. E migliaia di persone sono scese in piazza da Los Angeles a New York per protestare contro la soluzione del vigilante bianco che un anno fa uccise un 17enne afroamericano. Siamo qui, andiamo a Vibo Valencia. Sandra, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Sono indignata. Per che cosa? Perché lo difendono ancora. Ma chi? Ah, la Lega. Calderoli. La Lega difende Calderoli, sì, è vero. Più o meno. Più o meno la difende. Andava cercando un animale che gli somigliasse. Chi? Lei. No, lei, ho chiesto all'ex moglie. L'ex moglie gli chiedeva se c'era un animale che gli somigliava. Ma sì, perché siccome Calderoli è fissato col mettere dei dice dei soprannomi di nome ai politici, Luciani, di animali. Non esiste nessun animale tanto stupido. Come Calderoli, dice lei. Come Calderoli. Vabbè, Sandra, lei è incazzata nera con Calderoli, vabbè. Sì, ancora stiamo pagando le magliette noi. Beh, vabbè, le magliette, sì. Comunque. Beh, per scatenare una guerra, la porta, gliela paghiamo noi, gliela pago anch'io. Ma sono indignata. Ma non so se abbia ancora la scorta per quella vicenda lì, Calderoli, eh. Sì, sì, si informi, che l'ho sentito dire. Va bene, mi informo, grazie. Caterina, l'apprezzo perché lei vergogna tutti. Va bene, grazie. Caterina, provincia di Monza, buonasera. Caterina? Caterina? Dov'è? Ma che ne so, Massimiliano da Milano, Massimiliano. Pronto? Sì, dica. Pronto? Senta, io volevo provare a dire questo. Secondo me il ministro Kyenge va difeso dal suo partito, perché è stata infilata in un ministero rispetto al quale l'alleato di governo ha posizioni esattamente opposte, quindi il PD se ne fa vanto. Guardi, le proposte della Kyenge, che ancora non ho visto dettagliate su molti argomenti, finiranno nel nulla perché nessuno è d'accordo, per cui e quindi, poveretta, è un ministro inutile, bisognerebbe contestarlo per altre cose, non per quello che dice eventualmente, non perché, esatto, non perché assomiglia a qualcuno. Perfetto. Però il suo partito se ne fa vanto perché è nera, dice, questo bisogna dirlo con grande serenità. E dall'altra parte... Beh, l'hanno messa lì a posto come una sorta, appunto, di feticcio, no? Appunto, un simbolo. Un feticcio, diciamo... perfetto, è un feticcio. E dall'altra parte, come dire, chi ha, chi è un po', come dire, chi ha poco sale in zucca non fa che altro che offendere. Comunque, questa poveretta sta in mezzo. Comunque, lo sai Parenzo, quello che apprezzo della Chieng? È che in realtà, di fronte a questo attacco pazzesco che c'è nei suoi confronti, perché è nera, perché di questo si tratta, sembra che le scivoli tutto addosso, cioè è freddissima nelle risposte che dà. Non è che lascia spazio poi a ulteriori polemiche, sembra che tutto le scivoli addosso e risponde in maniera perfetta. Non so se sia farina del suo sacco oppure è ben consigliata. Comunque non cambia la cosa, cioè risponde a queste polemiche in modo perfetto, secondo me, cioè perfetto. Ma si può, appunto, però si può dire, direttorissimo, che il suo ministero è un ministero inutile? Ma certo che è inutile. Ma è inutile lei. Ma lei che telefona è una persona totalmente inutile. Ma perché? Utile ma perché per la trasmissione, ma è inutile per il paese. Ma perché il signor Parenzo mi deve sempre offendere? Che cos'è che gli ho fatto al signor Parenzo? Ma non, lei non mi ha capisco. Per fortuna non mi ha fatto niente, perché neanche la conosco, allora, non può fare nulla. Io l'ho offesa. Io l'ho offesa. Come si fa a dire che è un ministero inutile? Un ministero è inutile, che si ma certo che è inutile. Ma mi perdoni, qual è il programma di governo relativo al ministero? Ma ha ragione Massimiliano, è inutile il ministero. Dai, su. Grazie direttore, grazie. Fosse da un punto di vista simbolico, è utile in un paese in cui... Ma cosa vuol dire simbolico? Noi qui siamo con la canna, anche solo siamo alla canna del gas e andiamo ancora a fare la simbologia. Ma quale canna? Ma mi perdoni. Fosse anche solo... Io ho capito che lei non è canna del gas perché ha un sacco di lavoro e sono contento per lei. Fosse anche non solo... Non venga a raccontarmi che quel ministero è utile. Qual è il programma fosse del governo solo Letta su quel ministero? Ha ragione anche Massimiliano, solo quel programma, quel ministero è inutile. Inutile totalmente, dai, ha ragione Massimiliano, dai. E costringiamo questa poveretta a prendersi le offese di tutti. È sbagliato ma questo. Conto. Cosa? È follia. Guarda che è utile anche solo per questo. Anche ma non è fosse... vero, ma perché cosa? Perché questa poveretta... Lasci parlare Parenzo, un attimo. Anche non realizzarsi assolutamente nulla. È utile perché invece fa tirare fuori in questo maledetto paese tutta questa sporcizia razzista che era nascosta e invece la fa emergere anche dentro il Parlamento questa roba. Vabbè, ma adesso non stiamo parlando dell'utilità della Chieng nel far emergere il razzismo della Lega, che pure c'è. No, anche il simbolo di aver messo lì. Sì, vabbè, d'accordo. Forse anche che il problema è questo, serve il Ministero dell'Integrazione? Certo, no, serve. La risposta è no, certo, non serve a nulla. Perfetto. Non serve, basta un funzionario alle dipendenze del Presidente del Consiglio. Ma anche in Francia lo fanno, non mi far fare come Grillo adesso, ma che è vero, in tutti i paesi civili del mondo con immigrazione in Europa c'è il ma ministero quale del Ministero dell'Integrazione, ma non serve a nulla, a tagliare lo nastri, a fare inaugurazioni, così. Ho capito, ma qual è il programma, diceva Massimiliano? Lo fanno tutti, far così. Ma che? Ma qual è il programma? Qual è il programma che non è condiviso da nessuno? Lo Ius Soli, c'è una battaglia, non può portare avanti nulla. Dai, forza, esatto. Piero da Novara, buonasera. Grazie, grazie direttore. Buonasera, salve, buonasera Cruciani. Piero, dica. Secondo me, il problema non è quel buffone di Calderoli, perché ormai ci siamo abituati, purtroppo lo paghiamo per lasciarlo lì a dire minchiate, quindi secondo me il problema non è lui. Il problema sono tutti quelli che lo difendono, del suo partito, quella gente lì, quelli che lo hanno mandato in Parlamento a sedersi là e gli hanno permesso di prendere posizione a fare un beato cazzo di niente e permettersi l'uso di sparare merite minchiate da anni senza che nessuno, dopo 3-4 giorni che finiscono queste polemiche qua, se ne parli più. Quello va cacciato, non bisogna aspettare che si dimetta, perché è talmente ignorante che la parola dimissioni non la conoscerà nemmeno. Ma chi lo deve cacciare, Piero? Chi lo deve cacciare? Io le cacciare, dovrebbero mandarlo via loro stessi dal loro partito, farlo fuori così. Io, attenzione, mi ritengo più padano di lui, io sono nato e vivo sul Po, per fortuna sono una persona intelligente, lui secondo me no. Buonasera Renato da Catania, buonasera Renato. Buonasera. Dica. Io sono un cittadino padano dell'Africa, essendo di Catania sono del Nord Africa, quindi sono un padano africano ovviamente. Io le volevo suggerire, secondo me Calderoli assomiglia un po' come animale, più che un animale assomiglia al rifiuto di un animale. Io direi al rifiuto dell'elefante, che è il simbolo della mia città. Ho capito, però questa qua lei sta dicendo semplicemente che è una merda Calderoli, cioè non sta dicendo qualcosa di elefante. Ma perché di elefante? Perché? Siccome l'elefante è il simbolo di Catania. E vabbè, ho capito, allora, ma insomma, che vuol dire che è il simbolo di Catania? Che ce ne frega a noi? Lo associo come cittadino. Vabbè. Io come lei sta dicendo semplicemente che Calderoli è una merda, su, questo vuole dire, è una merda di elefante. Vabbè, d'accordo, di io elefante. Dico semplicemente che siccome non è la prima volta che fa queste figure barbine, sì, ne ha fatte tante, c'è quello che ha detto. Sì, però io vorrei sentire la stessa indignazione da parte di alcuni partiti rispetto alle battute su Brunetta Nano, sull'altezza sono di Brunetta, eccetera. Sono d'accordo con lei, la stessa cosa. Ma la stessa cosa, io questo non lo metto in dubbio, io sono perfettamente d'accordo con lei, le battute le facciamo fare ai comici, non ai politici sugli altri politici. Io su questo ho sono capito, quando un politico del PD o qualcuno del PD, perché è successo, ha fatto delle battute contro l'altezza di sull'altezza di Brunetta, andava stigmatizzato e accusato, andava messo alla berlina nello stesso modo, dai, su. Guarda, invece non è avvenuto. Io ricordo perfettamente quando Massimo D'Alema, in una trasmissione televisiva, definì Brunetta, credo, energumeno tascabile. Sì. Non ricordo. Ma non è successo niente, dai. Come no? Ma che è successo, dai, su. No, si scatenerà un po' di ferie. Dopodiché qui siamo di fronte a ben altro. Perché qui non siamo di fronte alla semplice battuta sfottò. Perché la questione della ministra di colore è una questione trattata spesso in modo razzista. Questa è la questione. Vabbè, ma non... quello che c'entra? Sto dicendo che è razzismo sull'altezza nel caso di Brunetta, ma però. Non è razzismo, è una battuta di cattivo gusto. Ho capito, ma è una battuta di cattivo gusto anche questa, scusa. Ma che vuol dire? Perché stai, stai pesando le due cose in modo diverso? Beh, le cose hanno dei pesi diversi. Ma non è vero, è la stessa cosa. Quando dai del nano a Brunetta o quando dai del nano, del nano a Berlusconi con l'altezza, è la stessa cosa se dai dell'orango alla Chieng. Che differenza c'è? Poi non è la questione del... Vabbè, perché ti fa più schifo quello. No, ma io lo adoro, figurati, Brunetta, per me deve... ci andrei anche in vacanza un giorno, uno solo però. Ma no, ma giorno... ti fa più schifo quello, non Brunetta, ti fa più schifo quello della Lega rispetto a quello del PD che dà del nano a Brunetta. Questa è la differenza. C'è del razzismo. Ma perché quello non è razzismo, il razzismo ma non è solamente nei confronti della gente di colore. Sono battute infelici anche ma quelle, dai, ovviamente. Ma stai facendo delle distinzioni assurde. No, ma ovviamente sono battute infelici anche quelle, non ci però ti fa più altro schifo Calderoli di uno che dà del nano a Brunetta. Ma sono cose paragonabili, come dire, come vabbè, non si una posso, non si può paragonare niente, vabbè. Mi ha sparato in faccia, diceva sì, però sono robe diverse. Ma non è vero, dai, su. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Pronto? Sì, signor Stival? Sì. Sì, buonasera, sono Cruciani, come sta? Andava meglio. Caro assessore, caro assessore, caro ma che assessore. Fa? Ma che ha combinato? Che ha combinato? Cosa ha combinato? Ha postato ha questo. Ha scritto una stronzata come al solito. Ha condiviso questa cosa sul suo profilo Facebook e poi l'ha fatta la. Io non ho scritto nulla. No, scritto no, ho Parenzo. Scritto una stronzata. Io non ho scritto nulla. Parenzo non sa che lei non ha scritto, no, in realtà. Tutto. No. Aspetta, allora assessore, siamo più precisi. Può dire tutto quel che volete, tanto va bene. No. Va bene, io non tranquillo. Ho scritto nulla. Lei, noi vogliamo essere precisi. Lei non ha scritto, ma ha condiviso, ecco. Giusto? Ha condiviso una cosa che era scritta su un blog, l'antipolitica, giusto? Mi sono tagliato il dito. Come si è tagliato il dito, assessore? Come si è tagliato il dito? D'altronde se è venuto fuori sto marasma per quel dito che ho schiacciato, dovevo tagliarmi il dito, ho detto, no? Però scusi, quando lei quando lei condivide una cosa che recita si chiama così. Condividere in italiano, no? Condividere, sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Cruciani dice una cosa io la condivido, no? C'era scritto siamo in italiano, la quindi avendo sbagliato a condividerla, cosa devo fare? Lei ha detto sostanzialmente, non detto, comunque tanto per precisare, ha condiviso la frase che è stato offeso l'orango. Ecco. Ma quando l'ha letta quella cosa? Avendo sbagliato a condividere, sì. Cosa devo fare? Che ne so, magari si deve dimettere da assessore. Ah, va bene. No, la domanda. Non c'è problema. No, guarda, è una domanda. Se la politica va così, andiamo così, non c'è problema. Ma come va così? Se c'è bisogno delle mie dimissioni, vado tranquillo, non c'è problema. Cioè, ci sta dicendo che si dimetterà? No. Cioè, se il sangue di cui avete bisogno, sangue sia, non ci sono problemi, no, ripeto. Guardi, caro Stival, io non la conosco, lei è assessore regionale veneto della protezione civile, non so come lavora, ovviamente non so nulla. Conoscendoci, quindi insomma. Però, no, però io so una cosa, che se uno fa una mossa, a meno che non si sia sbagliato, non abbia sbagliato tasto, la fa consapevolmente. Dunque, quando lei ha letto siamo profondamente sdegnati per i termini offensivi utilizzati da Calderoni nei confronti di una creatura di Dio qual è l'orango, riteniamo vergognoso che si possa paragonare un povero animale indifeso e senza scorta a un ministro congolese, beh, insomma, io penso che abbia condiviso questa frase, chiamiamola così, questa specie di scherzo sulla Chieng, o no? Guardi, ripeto, ho sbagliato a farlo. Sì. Mi sono già non solo immediatamente 5 minuti dopo aver visto la stupidata per come è stata strumentalizzata, per carità, non voglio di certo né giustificarmi né nulla, non solo l'ho cancellata qua e là, ma se questo significa strumentalizzare in questo caso questa specifica cosa, dopo 3-4 anni che sono in Facebook e accetto di tutto e di più di ciò che è giusto che cioè di offese, ricevano, riceva offese personali, sì, non c'è problema, sì. Non è quello il problema, ripeto, l'ho cancellata subito, sì. E ho anche deciso di sospendere il mio profilo personale di entrambi i numeri cose che ho di Facebook, per sì. Carità, se questo è offendere un ministro, offendere la democrazia, mi ritiro subito, perché non intendo offendere nessuno, non intendo mettere in difficoltà nessuno, sì. E comincio da subito da quello. Se questa è la democrazia, va bene così. No, ma vuol dire, che cosa che rimprovera? Scusi, assessore, però non capisco. Cioè lei dice strumentalizzato. Quando uno sostanzialmente scrive, perché lei non l'ha scritto, ma ha condiviso quello che è stato scritto, che è stato offeso l'Orango dopo la battuta di Calderoli. Beh, è addirittura peggio della battuta di Calderoli, scusami, mi permette di dire, perché... Più di dire che ho sbagliato, che l'ho ritirata, che ho... vabbè, se volete che domani mattina mi dimetta. No, ma lei non ha nessun problema. Noi non vogliamo, noi non diciamo. No, per carità, nulla. Per noi carità. Diciamo non questo. È un problema. Caro Stival, che io conosco da quando stavo in Veneto, che oggi ritrovo assessore all'identità veneta, e già questo mi fa ritrovo. No, veramente alla protezione civile, poi anche alla protezione civile, no, attento, è assessore all'identità, vabbè, veneta, d'accordo, però adesso che c'entra alla questo? Caccia, sì. E ai flussi migratori. Ora, va bene. Il signor Stival, che è assessore ai flussi migratori e che non si è posto il problema di ha condiviso una noi non è che ce l'abbiamo con Stival in quanto Stival, può essere una persona degnissima Stival, ma in questo momento ricopre una carica e lui non si rende conto che scoppia una bufera violenta nei confronti di un ministro di colore, lui direbbe forse negro, forse. Condivide, invece dice no. Non mi permetto di dire nulla perché verrebbe strumentalizzato. No, dica quel che pensa. È un ministro, basta. Io non mi sono mai permesso in questi mesi, sì. Battute o non battute del ministro, a replicare, perlomeno per come la posso pensare io. Ma sarebbe meglio che fosse ministro del Congo, secondo lei, perché è una cosa che ha detto Calderoli, magari la condivide. Ma per carità, se dobbiamo trovare polemica per polemica, troviamo polemica. Io rispetto dei ruoli istituzionali di ogni persona. Quindi ha sbagliato Calderoli anche. Dunque Calderoli ha sbagliato a paragonarla. Calderoli parla per sé, scusi. Sì, ma lei avrà un'opinione. Avrà un'opinione su quella frase, una semplice battuta, un'offesa gravissima. Guardi, non essendo presente, molte volte le battute che fa una persona vengono poi girate male. Non conoscendo la cosa, non vorrei dire stupidate. Vabbè, comunque fatta stamattina è sufficiente. Comunque lei non si dimette, Stivale, resta lì. Possiamo dire, resto assessore, a meno che Zaia non mi dica... come l'ha presa il presidente? Che le ha detto? Non so dirle, non ho avuto contatti diretti. Ne ho parlato un attimo con la segreteria, ma Lo sento però molto giù, lo sento Stival. No, molto giù. No, dice che Parenzo. No, guardi, sono dispiaciuto di tutto questo. Vabbè, qualche volta effettivamente basta un click, e si va nei casini. Basta un sì, tic. Sì, infatti, tic. Guardi, se penso alle 3 o 4 lettere di non intimidatorie e minacce di morte, le 3-4 volte che sono venuti a rubare a casa, uno dovrebbe avere in quei momenti, come adesso ha giustamente gli attacchi, anche la solidarietà, ma siccome siamo dei beceri leghisti, la solidarietà non c'è mai quando serve, e sì. Giustamente c'è l'attacco quando invece. Però mi scusi, anche questa cosa qua si vale. Io sono solo su questo avvenito, non su altro. Però scusi, va benissimo, uno non è che dà la solidarietà così perché ci ha avuto le rapine in casa, quello la danno i familiari. Le offese su internet, su Facebook, quelle fanno parte sono all'ordine del giorno, non ci dovrebbero essere. Però quando uno fa una stupidaggine, perché deve sempre giustificarsi dicendo no, non mi hanno dato solidarietà se mi danno del maiale o del milano del porco leghista? E vabbè, d'accordo, se vuole gliela diamo noi, però non è che uno usano pesi e misure diverse. Questi in alcuni casi, in alcuni casi è vero, però qui c'è il ruolo istituzionale, perché se lei fosse, che ne so, un consigliere comunale della Lega, lei come Calderoli, nessuno direbbe nulla. Quello è vicepresidente del Senato, lei è assessore, qualcuno può dire, ma scusa, forse le battute fate a casa vostra, o no? Sì, va bene, allora noi Benissimo. Va bene così. Vabbè. Non dobbiamo mai parlare, dobbiamo solo subire. No, non c'entra adesso. Niente. Voi dovete parlare, si può parlare dicendo è sbagliato quello che dice la gang sullo Ius Soli. Va benissimo, però uno non è che può poi a un certo punto, no, dare dell'orango a quello, perché non è una battuta, è chiaro, è una, perché secondo lei dare dell'orango... Io ho condiviso un post e non ho mai scritto nulla contro il ministro. D'accordo, secondo lei dare dell'orango alla gang in questo caso, nel caso di Calderone, non è una cosa razzista? No, non lo so, guardi, cioè io non lo so se ha dato dell'orango. Ma come non lo sa? Ma l'ha sentito o no l'audio? È dappertutto. Guardi, avendo staccato, io preferisco, ho preferito oggi evitare di sentire. Mi può scusare se non ho, no, per carità, sentito l'audio di, no, l'audio, Calderoli. Ha detto, non essendo a conoscenza di ciò che ha detto Calderoli, non sono in grado di dire cosa. Vabbè, ha detto quello, io lo dico io. Ha detto che assomiglia ad un orango. Se il segretario federale ha detto che ha detto una cazzata, giustamente ha detto una cazzata, non è mica quello il problema. Vabbè. Però io personalmente mi piace parlare delle cose che conosco, se non la conosco. Vabbè, ha detto che assomiglia a un orango. Stupidata. Ma non ci vuole molto. Ha detto che assomiglia a un orango. È chiaro che è all'interno di un discorso, come dice Calderoli, ma quello è scontato che è all'interno di un discorso. Non stiamo dicendo che l'ha detto così isolato. All'interno di un discorso ha detto che quella assomiglia a un orango. E le sembra una cosa normale che uno dica. No, quella è una battuta infelice. Se è detta così, sono d'accordo che la battuta è infelice. E dunque è ancora più infelice quello che ha fatto lei, perché ha detto, è stato offeso l'orango. Ha detto, ha condiviso quello che è. Vabbè, Stivall, abbiamo già detto su questo. Grazie, arrivederci. Grazie. Vale. Giovanni da Lecco, buonasera. Buonasera a tutti e due. Dica. Un appunto, signor Cruciani. Lei non può mettere sullo stesso piano il fatto di dire che Berlusconi è basso, Letta è pelato, Brunetta è basso, Ferrara è grasso, perché quelle sono cose obiettive. Ma dipende da come lo si dice, dai, no, su Giovanni. No. Quanto pesa Ferrara? Sì, d'accordo. Quanto ma è basso, Brunetta? È basso. Quando lo si dice in senso dispregiativo. Sì, ho capito. No, sono cose diverse. Mi permetta questo punto. A parte che secondo Filippo Facci, effettivamente, guardandola sembra un orango. L'ho scritto ma, oggi ma su. Per favore. Su mica l'ho scritto io, l'ha scritto Facci. Appunto, Facci fa la figura dell'asino questa sera. Dopo lo ascoltiamo. No. È spaventoso però che il vice del secondo potere dello Stato si permetta di dire cose del genere riguardo un ministro. Va bene, grazie. Loredana buonasera. Da Milano, buonasera. Buonasera, salve ragazzi. Dica. Allora, a me viene in mente Fontamara. In che senso Fontamara? Silone. Scusi, Silone, addirittura Silone. E Silone. In questo romanzo... Ci faccia capire, qui c'è gente che non... Sì, dai, in questo romanzo... Silone diceva che Silone, quando la gente osserva troppo il principe e quello che fa, gli si manda una bella manciata di pidocchi nuovi, di pulci nuove, di specie nuova, per cui la gente comincia a grattarsi e dai che si gratta smette di controllare e di vedere che cosa fa il principe. Ora la storia in sé tra Calderoli e il nostro ministro dell'integrazione è talmente stupida, ma stupida, che mi domando chi l'abbia organizzata per distrarre. Ma l'ha organizzata lui, non c'è nessuna cosa per distrarre dalla vicenda kazaka, come dicono i leghisti, ma chi lo dovrebbe fare questa operazione di distrazione di massa? Ma sembra tanto una commediola messa insieme. Ma adesso che messa insieme? Nessuno più parla di quel Loredana, che ma se quello va a Treviglio e dice una cazzata, ma quale ma burattinaio c'è? Calderoli è un ciabattone, non fategli caso, fa parte di lui ciapa, chiacchiere, basta. Ad ogni modo tutto questo ci distrae e nessuno più parla di quello che fa il governo, di ma nessuno mai più dà le risposte. Ma che stupidaggini, che aspettiamo. Ma sono stupidaggini, Loredana, su, sì, sono stupidaggini. Nell'insieme stupidaggini. Ma stupidaggini quelle che dice lei, secondo me, sono stupidaggini quelle che dice lei, perché non c'è nessuna, a parte che da domani la vicenda di Calderoli si chiuderà più o meno. Lui parlerà al Senato, eccetera, per cui durerà due giorni. E poi comunque si continua a parlare di altre cose, del caso del Kazaki. Voglio fare un regalo. Con questa figura di merda del governo. Aspetta, aspetta, voglio sentire Parenzo. Che regalo. A me vuole fare un regalo. No, ti voglio fare un regalo, Cruciani. Dimmi. Siamo alla fine di una grande stagione radiofonica. Sì. E io ti voglio regalare stasera un grande cameo. È una sorpresa. Sì, ma fai le domande tu, però. Non perché ho a fianco a me un grande ospite. Dimmi, fai le domande. Ti voglio tu passare in diretta. No, fammi le domande, fai le domande tu, dai. No, guarda, ti passo una persona che devi riconoscere dalla voce. Dai, su. Perché ha grande richiesta. Torna alla Zanzara su Radio 24. Ecco qui. Chi è? Cruciani, mi riconosce, sono Oscar Giannino, come sta? Oscar, un abbraccio, caro Oscar, come va? Allora, un saluto agli ascoltatori della 24, ai vostri naturalmente, affezionatissimi. Vabbè, qui Parenzo naturalmente. Che sta facendo? Esplode in sottofondo. Sì. Come vanno le cose? Mi pare benissimo per voi. Sì, bene, ma tu che fai? Torni o non torni alla fine? Io naturalmente c'è un'azienda che ha un contratto e il contratto in teoria l'azienda è inadempiente, io sono in attesa, tra un po' ma che ti di hanno... essere in attesa che ti e hanno passerò detto? Gli avvocati ma che come gli avvocati, scusa? Comunque non mi fa giungere troppo per rispetto della radio, ma non avere paura, qui si può dire tutto, si può dire tutto. Ma lo so che si può dire tutto, però voglio rispettare questa azienda che però non sta rispettando il contratto che ha con me, quindi vediamo, c'è un direttore, come sanno i nostri ascoltatori, è cambiato da poco e quindi aspettiamo. C'è qualcuno addirittura che fa lo sciopero dei tuoi fan, che fa lo sciopero di Radio 24 perché non ci sei? No, questo ho visto, ma vedo anche che i risultati della radio naturalmente beneficiano di chi come voi lavora ventre a terra, quindi insomma il miglioramento c'è sempre, quindi voglio sperare di non danneggiare più di quanto non abbia fatto, ma ho anche pagato e pago abbastanza amaramente. Quanto hai pagato? Tanto. Tanto? Tanto, sì. Dal punto di vista economico? Molto? Tantissimo, ma più che quello è naturalmente la delusione di tanti, la delusione di me stesso, perché ho sbagliato compari di strada, questo poi è un altro paio di maniche, ma parleremo molto più avanti di questo, perché su questo naturalmente sto ben zitto, perché sto andando a fare giornalista, è la cosa migliore da fare, e naturalmente con gli editori che sono tornati a credere in quello che ho fatto per 30 anni. Ho letto che tra l'altro hai ripreso a collaborare con il gruppo Caltagirone, no? Sì, con Panorama, con il gruppo Caltagirone, eccetera, eccetera, quindi le cose sono riprese, però naturalmente c'è un vulnus che chiunque è in ascolto ha tutti i titoli per molto tempo per risollevare ogni volta che mi sentirà riparlare, e questo bisogna sapere che è così nella vita, bisogna metterlo in conto, e quindi conta solo poi la serietà di quello che continuerai a fare. Vabbè, però scusami Oscar, adesso per chiudere, in tutta questa vicenda, da 1 a 100, tu personalmente quanto hai sbagliato? Da 1 a 100? Io ho sbagliato in 3 cose in progressione, dove ho sbagliato di più la scelta dei compari, dove ho sbagliato tantissimo, cioè più del 50%, dopo che avevano tutti cambiato idea di non candidarsi, l'idea di andare avanti da solo, che ha fregato tutto, perché stava andando meglio di quanto non si immaginasse, quindi è stata... E come poi ultima cosa le tue cazzate? Quella è la cosa che riguarda me più gravemente di tutti, che non ha a che vedere con la politica, ma con la mia credibilità personale. Ma qualcuno dice che c'è una patologia in queste cose qua, una cosa che ti ho sempre voluto chiedere, è vero o no, secondo te? L'ho letto anche sul Sole 24 Ore e non sono d'accordo. Cioè non hai una patologia a dire cazzate? No, non ho una patologia a dire cazzate, so che ne avete parlato a lungo, vi ho ascoltato, ma non è così. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Allora, caro David, abbiamo Francesco Speroni. Francesco Speroni, no, ma che è meglio Giannino, ma che fa Francesco Speroni? Che cosa c'è? Ma Oscar Speroni tornerà ospite alla zanzara sicuro tra poco. Francesco Speroni, uno dei prossimi deve giorni. Impegno, sì, ma assolutamente, per me è un fratello, figurati, poi l'ho criticato tantissimo, lui lo sa, ma è un fratello totale. Fratello, me gli spari sempre sulla testa. Non è così. Vero, non è vero, lo faccio apertamente, a viso aperto, senza. Lo fai perché lo ami. Non lo faccio perché ho convissuto. La forma di amore, ma spero che tu non mi ami mai così. Spero. Ma non è vero, io l'ho criticato apertamente, in modo trasparente. Gli ho anche chiesto adesso se è una patologia a dire cazzate. Gli ho detto apertamente quello che dicono tutti e nessuno ha il coraggio di dire. Glielo ho detto apertamente: hai o no una patologia a dire cazzate? Quello che dicono in molti, lui dice di no. Su queste cose ci si confronta. Francesco Speroni, europarlamentare della Lega Nord, buonasera. Buonasera, come andiamo? Personalmente bene. Speroni, non c'era oggi alla riunione della Lega, so che lei c'era, non c'era Calderoli però. Ero seduto di fianco, cioè c'ero io, di fianco a me c'era Tosi e poi c'era Calderoli. Ah, c'era pure Calderoli. Eravamo vicini. Ma che com'era, allegro, tranquillo, rideva, che faceva? Tranquillo. Tranquillo, scherzava, rideva. Sì, anche, però anche. Insomma le riunioni, sì, come in tutte le riunioni. No, scherzava, sono rideva. Sono dei momenti più seri e dei momenti meno seri. Però scherzava, rideva, tranquillo insomma. Sì, come al solito. Sereno, sereno. Molto sereno, o no? Ma dalla faccia sembrava di sì, poi dentro non lo posso sapere. Cioè non ha fatto una delle solite battute che fa sempre, che dicono faccia sempre Calderoli? No, non me le ricordo oggi. No, oggi no. Ma è vero che fa poi queste battute oppure no? cioè un, almeno tenta di farle. Più o meno tutti facciamo le battute, insomma. Beh, c'è chi le fa di più, chi meno, chi le fa più o meno felici, ecco. Scusi un attimo, qui c'è un punto, siamo arrivati a un punto fondamentale. Io non so che cosa dirà domani Calderoli in Senato, se dirà qualcosa, perché adesso leggo dall'ANSA che non vuole parlare. Secondo lei si deve dimettere o no da vicepresidente del Senato per la battuta che ha fatto sulla Chieng, battuta, alcuni dicono frase razzista? Adesso poi... Ecco, siccome la battuta non è assolutamente razzista... Non è razzista? No. Perché dovrebbe essere razzista? Beh, insomma, diciamoci la verità. Diciamoci la verità, Speroni. No. È evidente che uno non è che dice... È come dire scimmia a uno in senso dispregiativo. L'ha visto anche lei, l'ha sentito anche lei l'audio, il filmato, o no? Sì, allora... Quando hanno detto che Berlusconi era un caimano, sì, anche quella è una brutta bestia, no? Sì, ma sono due cose diverse. Sì, che il caimano sia diverso da un orango, penso di saperlo anch'io, se non altro perché un po' di documentari in televisione li vedo. Sì. Però, appunto, cioè, quindi se avesse detto, non so, che la ministra era un ippopotamo, una tigre o qualche altro animale, andava bene. Beh, certo, era molto diverso, non c'è dubbio. Ah, ecco, quindi dipende dal tipo di animale. Beh, ma certo, quando si dice orango a un ministro nero di colore, è evidente che lo si dice in senso dispregiativo. Perché che c'entra l'orango con i ministri neri? Ma come c'è? Ma adesso, Speroni, però... Non... con un muro, mi non facciamo, cioè non prendiamoci per il culo. Non prendiamoci in giro. La ministra africana... Sì. L'orango è un animale asiatico, la ministra italiana, non c'è proprio nessuna relazione tra l'origine della ministra perché e se... l'animale citato da Calderoli. Perché se... è meglio di Ghedini. Secondo lei... È meglio di Ghedini, Speroni. No, beh, spero per Calderoli che non sia come Ghedini, perché Berlusconi fino adesso... È un avvocato, Speroni, no? Però, Speroni, scusi un attimo. Come sì, avvocato? È vero, è anche avvocato, sì. Con questa tesi qui... Però, Speroni, scusi un attimo, tra l'altro... Siccome l'animale è asiatico e non è africano... E allora non c'è per però niente. Scusi, Speroni, secondo lei Calderoli sa che l'orango è asiatico? Ma se vede Sky, i documentari di Sky, penso di sì. Cioè, come è appassionato di animali, può darsi che lo sappia. Non gli faccio certo l'esame di storia naturale. No, d'accordo, però secondo lei dare del caimano a Berlusconi e dare dello scimpanzé orango no, al... distinguiamo tra l'orango, sì, l'orango e d'accordo, comunque, benissimo. Diciamo... Dare dell'orango alla Chieng è la stessa cosa. Cioè, quindi, per cui se uno avesse detto che Berlusconi era che sei un gorilla... Ma Berlusconi è bianco, non è nero, ha capito la differenza ecco, qual è? Quindi i bianchi possono essere paragonati agli animali e i neri no. Questa è una bella tesi. E no. Gli asiatici, che sia un cinese, lo posso paragonare, che so io, a una tigre? No, però scusi, non mi faccia confondere adesso. Un cinese lo posso paragonare, che so io, a un giaguaro? Ecco, tra l'altro, scusi, le faccio un esempio. È stato paragonato anche a un giaguaro. Berlusconi, sì. Berlusconi. Però il giaguaro... Sarebbe come paragonare... Gli appellativi animali si possono dare ai bianchi. Sì, però... A quelli che non sono bianchi invece non si possono fare paragoni. Vabbè, è una tesi interessante, mi permetto di non condividerla. Però Speroni, scusi un attimo, se in quel contesto lì uno avesse elencato una serie di persone, di politici, tutti insieme per fare un po' di cabaret, la cosa sarebbe passata in osservare. Allora, ci ricordiamo che un tale politico era chiamato il cinghialone. Sì, Craxi, certo. Però quell'altro era chiamato il topo. Sì, vabbè, d'accordo. Però erano tutti bianchi, allora si possono... Ma è proprio questo il punto. Non è offensivo, non è razzista. Ma è giusto. Proprio questo il punto. È proprio questo. Quando cioè, uno... i neri non possono... Non no, si può scherzare sui neri, ne prendiamo atto. Non si può scherzare sui neri, vabbè. Però, scusi, Parenzo, di... No, l'obiezione che faccio... Sto cercando di trovare un argomento... Ci sono alcuni... Restiamo in questa roba qui. Ci sono alcuni animali che notoriamente fanno molto sesso, no? Ma si dice fare sesso come conigli, no? Sì. No? Allora se io paragonassi non lo faccio. Come mandrillo, dice Speroni. Come? Come mandrillo, dice. Mandrillo come? Oppure i conigli anche. Infatti, ecco, appunto, come se io paragonassi, non lo voglio fare, ma Berlusconi al mandrillo, ad esempio, è chiaro che evocherei una situazione, no? Sì. Ecco, allora c'era Forlani che veniva chiamato coniglio. Per di più Mannaro. Coniglio Mannaro, sì. Ecco, però allora, lì cos'è? Razzismo nei confronti di Forlani? Ci deve rincoglionire però, così, però scusi, Speroni, non è la stessa cosa. Dai, su, ma non ci possiamo prendere in giro. Allora, ripeto. Scusi, a lei la Chieng... dal continente nero non si può paragonarlo a un animale. Scusi, a parte che lei ha detto ministro africano, ma è italiano, mi risulta. Di origine africana. Sì, insomma. Ma siete voi che continuate a dire, per me... Appunto, un italiano può essere paragonato a un animale a meno che non abbia una provenienza africana, è questo che voi dite? Ma no, ma è Speroni, però non sì, ci piace. Se voi che lo dite, ma lo se uno io. Fa una cosa, dice una frase come adesso gliela faccio risentire, dopo la pubblicità la risentiamo, così ci accertiamo davanti a tutta la platea della Zanzara che quella di Calderoli non era una cosa, una butade così, era una roba indirizzata alla Chieng in quanto nera. Guardi, io sono il meno politicamente corretto che c'è, cioè non, per me dare del nano brunetta è come dare dell'orango alla Chieng, però sono gravi tutte e due le cose, dai. Ogni tanto smanettando con internet apro il governo italiano e capo quello di venire fuori da King. Io resto secco, io sono anche un amante degli animali, per l'amor del cielo. Ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però i lupi anche ci ho avuto, però quando vedo uscire delle, non dico che, delle sembianze d'orange, mi resto ancora sconvolto. Non c'è niente da fare. Tu sei come una piccola. Adesso, Speroni. Ha sentito, io ho avuto un sacco di animali, sono amante degli animali, scimmie, però non c'è niente da fare, rimango sconvolto quando vedo uscire fuori la King, la chiama King, in realtà è Chieng, come lei sa bene, con delle sembianze di orango. Come si può giustificare una frase di questo tipo? Adesso Speroni, lei è una persona, voglio dire, allora, no, è bene che fa l'avvocato e della Lega, però... Quante volte noi quando vediamo uno, diciamo, su quello lì assomiglia a un animale, cioè... Ecco, ad esempio... Ma quello fa il vicepresidente del Senato, è un po' diverso, lo posso fare io, lo può fare lei forse, forse nemmeno lei, ma io lo posso fare, ma quello fa il vicepresidente... Allora, tornando agli, diciamo, i paragoni tra animali, sì. C'è una tale Naomi Campbell, vero? Che viene chiamata normalmente Pantera Nera. E vabbè, Pantera Nera in senso positivo. Allora, in senso lei pure, anche lei è di origine lontanamente africana, però allora si può, allora dipende da chi è... E da quale animale viene paragonato? Ma non è in senso negativo, Speroni, in quel caso. Pantera Nera è una cosa per dire di una bellezza straordinaria. Allora anche perché Caimano è in senso positivo. No, ma Caimano... Ma vede, guardi, il punto fondamentale è un altro. Allora, lei appunto, che diciamo, lei lavora un elenco degli animali positivi e degli animali negativi. Però lei lavora al Parlamento europeo, più o meno dovrebbe intendersi di cose internazionali, no? Sì. Tutte le campagne razziste americane, mi segnalano, paragonavano i neri alle scimmie. Nella propaganda del Ku Klux Klan i neri spesso sono accostati alle scimmie, per ma cui siamo in Italia, siamo mica in America. Vabbè, ho capito, Speroni, su, ma è evidente che quando uno fa un accostamento del genere per disprezzare quella persona, quando uno dice beh, come, poi l'ha sentito Calderoli che dice, no, rimango sconvolto perché ci sono gli scimpanzé eccetera, quella ha una sembianza dell'orango, ha detto una cazzata e per questo si deve dimettere da vicepresidente del Senato. Ma che ci vuole a dirlo? Non capisco perché. Vabbè, diciamo che è una decisione sua a questo punto. Io penso che si dovrebbe magari dimettere qualcun altro, tipo quelli che deportano le bambine kazake, ecco, quello forse è una cosa molto più grave che gli oranghi e i ministri. Cioè, non ho capito, secondo lei si dovrebbe mettere più Alfano che Calderoli? Beh, o qualcuno, insomma, perché mi sembra strano che un ministro non sappia queste cose qua, quantomeno... diciamo quella che si chiama colpa nel vigilare, perché a un certo punto con tutti i clandestini che ci sono qua vanno a prendere proprio una bambina kazaka, la caricano su un aereo e la portano via. Vabbè. Quando abbiamo le nostre città piene di clandestini, non con un documento apparentemente irregolare, ma addirittura senza documenti, stanno qui, vendono spazio, danno fastidio... fanno anche dei lavori. Mi per posso carità, permettere di dire però che la vicenda. È una posizione irregolare e non gli va in casa. Guardi, una banda di 40 poliziotti per caricarli in poche ore su un aereo. Ma io sono anche d'accordo con lei sulla vergogna di questa cosa qua allora, e sul governo. Ma, allora, ma non c'entra niente con la vicenda. L'immigrazione o quella che è semplicemente per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica su un fatto questo sì grave che non. Una battuta ovviamente infelice di Calderoli. Però non metta diciamo sullo però scusi un attimo, spero non metta sullo stesso piano queste robe qui, perché sono due cose completamente diverse. Cioè, lei mi mette sullo stesso piano la vicenda kazaka che è perché la vicenda kazaka sui mezzi di informazione viene messa in secondo piano. Ma quando mai? Ma è piena... storia dell'orango e ma sono tre giorni che sulle prime pagine di tutti i giornali. Poi ieri Calderoli ha detto una cazzata sabato e dunque si parla anche di quello. Ma i giornali sono pieni della vicenda del Kazakistan da tre giorni. Dai, non, su. Non con la stessa enfasi di Calderoli. Vabbè, comunque secondo lei non si deve dimettere? Per me se si dimette è una scelta sua. Però è una scemenza. Se, eh? Se si dimette è una scemenza. No, io non ho detto che è una scemenza, è una scelta sua. Vabbè, sua quella comunque, questa è una cosa tautologica, ovvia. Cioè una cosa appunto, ma non posso chiedere io di dimettersi. Cioè, fosse per lei non ci sarebbe nessun problema se resta lì. Ma ripeto, non perché uno fa una battuta sbagliata a un comizio si deve dimettere, insomma. Appunto, secondo lei non si deve dimettere, non ci vuole tanto a dirlo. Secondo me no, insomma, c'ho diritto alle mie opinioni. Ma certo, lei ha tutto diritto. Non posso parlare, non posso fare paragoni con gli animali, non posso fare niente. No, e dov'è la Costituzione italiana? Speroni, io la stavo cercando la sua opinione, e siccome lei non mi diceva, lo chieda, non è compito mio dirlo. Invece adesso mi sta dicendo, secondo me non si dovrebbe dimettere. Va benissimo. Secondo me non si deve dimettere. Io questo cercavo, non è che stavo dicendo che è sbagliato quello che pensa lei. Io la penso in modo diverso, però ci confrontiamo, come è normale che sia. Va bene. Scusi un attimo, ma... Però, scusi, un orango, perché un orango poi, secondo lei? Ma che ne so io? Forse perché non è così scuro rispetto a un gorilla, tanto per dire. Ecco, a proposito di scimmie, ho appena visto su una vecchia puntata di Crozza che c'era un accostamento tra, mi pare l'allora ministro, comunque è stato anche lui ministro, La Russa e un babuino, con tanto di fotografia che faceva il paragone. Sì, ma quello fa il comico però, Le segnalo che fa il comico, Crozza. Allora i comici possono insultare i politici? No. Beh, sì. Gli insulti che mi hanno fatto i politici a me, a Calderoli, alla Lega, eccetera. Sbagliati. Se uno dice... Però mica si sono dimessi quelli. Quello, quando c'è stato qualcosa di grave e uno aveva un ruolo istituzionale... Figurarsi se tutti gli insulti che ha avuto si sono dimessi i politici. Ma no, ma dimessi da... Nessuno dice che Calderoli si deve dimettere da senatore, non me ne frega niente, non è quello il punto. Cioè, il punto è che ha una carica, che è quella di vicepresidente del Senato, e forse si dovrebbe dimettere da questa carica qui. Cioè, poi ne ha combinate di cotte e di crude Calderoli, diciamo la verità. Certo, infatti mi pare che quando ha combinato una grossa si è dimesso, anche se secondo me quella storia delle magliette, anche lì uno può neanche mettersi una maglietta come gli pare, vabbè. Ma non è che sta per scatenare ma una guerra. Lei cosa le ricorda la Chienghe? La Chienghe? Sì. Quando la vede? Non l'ho mai vista. Sì, l'ho vista in televisione, non ho mai avuto in televisione, dico. Occasione. Ma così, ripeto, mi sembra un po' diversa da Naomi Campbell, diciamo così. Ah, perché è un po' più grassottella, dice lei. Non è così alta, va, diciamo così. È bassa, un po' rotonda. Vabbè, insomma... Non è Naomi Campbell, insomma. Ecco, non è Naomi Campbell. Vabbè, d'accordo. Ha un fisico diverso. Ecco. Uno può apprezzare anche quello e tanti saluti. Insomma, ma chi le ricorda qualcosa in particolare? Le fa venire in mente qualcosa quando guarda il ministro? No, anche perché poi qualunque cosa venga in mente divento razzista pure io. No, però scusi, io leggo, lei ha detto, la Chienghe, è rotondella e paffutella, mi ricorda l'omino della Michelin. Vabbè, quello sì, che è bianco l'omino della Michelin, per carità, e teniamolo presente. E dunque? E dunque, vabbè, quindi nessuno può accusarmi di razzismo. No, perché lei la guarda e le ricorda l'omino Michelin. Vabbè, anche per sito mi ricordava l'omino Michelin. No, per sito a me mi ricorda qualcos'altro. Lo so. I Soprano, diciamo. Mi chiedete l'aspetto fisico, no? Sì, come aspetto fisico. Quando lei la vede, che cosa le ricorda? L'ho appena detto, l'omino Michelin. No? L'omino Michelin. Ma non fa ridere neanche questo, però. Vabbè, non fa ridere questa, però. Se le ricordo l'omino Michelin, ricordo l'omino Michelin. Che dobbiamo fare? Mica possiamo morire su questo. Però, mi scusi, perché c'è questo? Oggi qualcuno scrive che... ma è vero che il razzismo porta voti? O presunto tale, naturalmente? Ma questo non lo so. Se fosse così, visto che avete parlato dell'America, avremmo un presidente, non Obama, ma il presidente del Ku Klux Klan, insomma. No, ma voglio dire, premere su questo tasto che è quello, cioè perché questi attacchi alla Chienghe, al di là della questione politica? Diciamo, sono attacchi perché ha delle idee che noi non condividiamo, a cominciare dal cosiddetto ius soli, il diritto di avere la cittadinanza solo perché si nasce in un paese. Però, Speroni, non siamo d'accordo. D'accordo, questo va bene, però sulla Chienghe c'è stato dall'inizio della sua nomina una specie di fuoco incrociato. Ha cominciato lei a dire il diritto di qui e gli immigrati, che noi siamo tutti meticci, che questo per carità non è razzismo. Poi ha detto che gli immigrati sono una risorsa, che ce ne vogliono di più, che noi siamo culturalmente arretrati, anche questa è una bella offesa, insomma, però se lo dice lei va benissimo, insomma. Però scusi un attimo, ha letto anche Calderoli dice che non parla bene l'italiano, adesso, ma voi, a voi... diciamo che ha un accento straniero, come ce l'hanno tanti. Sì, ma poi a voi che ve frega se non parla bene l'italiano? Non è questione che me frega, è come se io dico che un tale c'ha gli occhi azzurri o ce li ha marrone. Ce li ha e basta, insomma. Ma poi può dirlo o può non dirlo, insomma. Ma secondo lei ci potrà mai perché essere... Perché la Lega parla bene l'italiano. No, ma poi non glielo dovrebbe fare niente della lingua italiana, a parte la Lega. Cioè, la Lega ogni tanto pure degli strafalcioni si sentono, oppure la gente... Allora, adesso, a questo punto, noi avevamo anche un altro ministro di origine straniera, vero? Sì. Quando? In questo governo? Sì. Sì, la Idem, sì, certo. E qualcuno addirittura... Tale Grillo ha detto, c'è bisogno proprio di una ministra tedesca, no? Sì. E nessuno ha fatto casino. No, come no? No, fu attaccato, Grillo, fu attaccato Grillo in maniera furibonda. Perché come ha detto no? che era tedesca. Sì, c'è stata c'è stata una polemica, come no? Guardi che per me alcune battute di Grillo sul fisico, eccetera, e su Berlusconi nano e altre cose, sono da condannare anche quelle, cioè... Anche lì bisogna vedere, perché non so, il Bignasca veniva definito il nano, lo scrivono tranquillamente sui giornali svizzeri anche adesso che è passata miglior vita, e nessuno si offende. Scusi un attimo, ma in Italia secondo lei ci può mai essere un ministro di colore, un primo ministro di colore? Come? Un premier di colore ci potrà mai essere in Italia? Beh, se è cittadino italiano secondo me... No, ma secondo lei sarebbe auspicabile o no? Ma io non vedo perché deve essere auspicabile... Che uno sia primo ministro per il colore della no pelle. Per il colore, però no. Siamo pronti a avere un primo ministro nero, secondo lei? Ma penso che noi italiani siamo pronti a tutto, abbiamo già avuto di tutto. Cioè, quindi... sarebbe un disastro, secondo me. Cioè, la Chieng primo ministro sarebbe una cosa disastrosa per l'Italia? Ma visto sempre le idee se a lei interessa l'Italia, Come? Visto le idee che ha, sarebbe disastrosa, ma anche se fosse la Boldrini, per dire. Però scusi, io non posso credere. Politi Vendola, ecco, per intenderci. Non posso credere che lei pensi che dare del caimano a Berlusconi sia la stessa cosa che dare dell'orango alla Chieng. Non ci posso credere, Speroni, la conosco, lei fa l'avvocato. Che cosa non può credere che dare del caimano a Berlusconi per lei è la stessa cosa che dare dell'orango alla Chieng. Per me sì. Per lei sì. Che devo fare? Che bisogna fare? Parenzo, che bisogna fare? Napolitano, Salvini ha detto che deve stare zitto, non doveva intervenire. Secondo lei, Speroni? Ma ripeto, se ogni volta che un ministro viene paragonato o un personaggio politico viene paragonato a un animale, deve intervenire il capo dello Stato, ha perso tante occasioni, ripeto. Io ho dato della pantegana in Senato, neanche del topo, all'allora primo ministro Amato. Non è... Sì, ma è un'espressione no, cortese, ma... per carità. No, cortese però direi di no. Nessuno mi ha detto niente. Sì, ma è diversa la cosa, ma lei lo capisce o no? Lo capisce o no che in America è pieno di campagne razziste? Era... Ma noi siamo in Italia, non siamo in America. Ho capito, ma se uno dà dell'orango a un ministro è evidente che c'è questa connotazione qui. Vabbè, lei non la vede. No, lei non conosce... la vedo. Comunque Calderoli era tranquillo, mi ha detto lei, rideva, scherzava. Ma Calderoli, diciamo, ha presentato le sue scuse alla ministra. Quindi... Vabbè, scuse, sa, cioè, poi le scuse è facile darle, dai. Cioè, a tanto punto, ripeto... Può anche aver sbagliato, ha chiesto scusa, le scuse non so se sono accettate o meno, però adesso farne un caso, ripeto, con tanti problemi che abbiamo, la disoccupazione, le pensioni che non ci vabbè, sono, però eccetera, questo... eccetera, stiamo a vedere l'orango e la ministra, è per carità, insomma. Va bene, sembra quasi che sia la cosa più importante in Italia oggi. Non è la cosa più importante, però se uno dice una stronzata, perché quella è evidentemente una stronzata, cioè, oggi no, non paga nessuno in Italia. Alfano non si dimette quando hanno portato via due kazake a sua insaputa. E non si dimette nessuno, alla fine pagheranno bassi funzionari. Ma no, la Idem si è dimessa. Sì, ecco, la Idem. Beh, cioè qui prima, Calderoli non si dimette, Alfano non si dimette, invece si è dimessa la Idem per una storia che riguarda l'IMU. Le pare normale a lei? Direi di sì, cioè è un conto il dibattito politico, può essere anche acceso, e un conto invece è andare contro le leggi. Comunque Salvini si è scusato con Napolitano. Vabbè, grazie Speroni, a presto, grazie. Prego, buona grazie, serata. Pubblicità. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, Allora mi scrive Andrea Zoli da Forlì con una mail: caro David Parenzo, sì? Sei un po' moscetto stasera, eh? Siamo mosci, però va bene, va bene. No, adesso no, ma sì, siamo moscetti, siamo moscetti. Cerchiamo di tirarci su almeno gli ultimi tre quarti d'ora. Perché D'Alema poteva chiamare Brunetta energumeno tascabile, Furio Colombo chiamarlo mini ministro? Mai ma sentite infatti arrivare scuse da quella parte. Ma ha ragione questo ascoltatore da Forlì. Ma infatti l'ho ricordato io. Sì, no, no, ma ha perfettamente ragione, infatti. Non è che si rivolgeva a noi questo ascoltatore. Ci ha scritto questa cosa e nessuno chiese a Furio Colombo. Ma queste persone qua però non avevano ruoli in particolare. D'Alema all'epoca credo che fosse solamente deputato, Furio Colombo forse deputato del PD. E poi comunque ci furono le proteste da parte del centrodestra, sì, eccetera. Il problema fu la parola tascabile, non energumeno. Franco da Verona, beh certo che era però bella. Sai, anche cioè, in questo caso era anche, come dire, ricercata la battuta, perché almeno era, no? Vabbè, dai, ma che ricercata, era una no, dico, almeno. Ho capito, è inaccettabile la stessa. Non era grezzo, era una battuta colta. Ma anche almeno Orango volendo non è grezzo, che vuol dire? Cioè, non è che gli ma ha detto no, testa di cazzo. È una roba che dicono nelle osterie di Bergen. Cioè, capito? Quello è uno scimpanzé, ma veramente lo dicono anche nelle osterie di Caltanissetta, non so. Anche dove, probabilmente, però se osterie, tu poi le osterie sono nobilissime. Quel neger lì, una scimmia, lei la scimmia, cioè così, mentre è energumeno tascabile, ha già, come dire, no, una ricerca almeno. Franco da Verona, andiamo, Franco. Sì, sono in attesa, dottor Cruciale. Dunque, senta, a me sembra che chi c'è la peggio di tutti adesso, tutto questo cancanio, questa polemica spaventosa sui giornali, radio, televisione e quant'altro, e ce l'ha questo povero Orango. Tutto sommato l'Orango è un primate. Se noi andiamo a guardare la storia dell'evoluzione anche da Darwin in poi, noi discendiamo dal mio rango, tanto è vero che il 99% del DNA. Beh, ma che vuol dire? Poi, che vuol dire? Che vuol dire? Aspetti, mi lasci di dire. Cioè, noi abbiamo il 99% del DNA simile a quello dell'orango, quindi una sola differenza dell'1%, una somiglianza, ce l'abbiamo tutti quanti con un orango più o meno. Non è che sto scusando. Vabbè, allora Calderoli o quello che hanno detto gli altri, assolutamente no, voglio soltanto dire questo: siamo tutti più o meno degli orango, nel senso che vabbè, siamo tutti degli orango, Franco, l'abbiamo capito, ma dipende come, no, come si dicono alcune cose, lo capisci o no, Franco? Dipende da tutto quello che vuole, ma tanto non ha importanza, il problema fondamentale è semplicemente un altro. E qual è? Ce lo dica lei, professore. No, non è che sono professore, è di ordine politico. Cioè? Quindi si prende una qualsiasi frase, parola che viene pronunciata malamente, eccetera, eccetera, e poi se ne crea tutto questo grande enorme disturbo. Va bene, Franco, la sento poco. Giulio da Roma, buonasera, Giulio. Buonasera, ragazzi. Dica. Vado subito al punto. Sì. Allora, io ne faccio una questione di termini, molto semplicemente, perché prima avevate accostato insieme con Speroni, se non ricordo male, era al telefono, il fatto che Berlusconi potesse essere definito caimano. Il caimano ha delle connotazioni precise, no? Nessuno entrerebbe nella palude dove c'è il caimano perché è pronto ad azzannarsi. Sì, certo, giusto? Certo. La tigre, voglio dire, qual era la cantante che era chiamata la tigre di Cremona? Oddio, chi era? Milva, Mina, non ricordo. Comunque, insomma, un bel appellativo, la tigre. Milva, sì. Milva, no? Voglio dire, aveva tutto questo slancio, felina, cioè. Ma l'orango che c'ha di particolare? Cioè, c'ha solo cose negative. Dietro multicolore, cioè, voglio dire, se avesse detto, che ne so, la ministra con quel faccino così simpatico può sembrare un cucciolo d'orango, penso che si sarebbe fatta una risata. Ma definire la ministra un orango che, ripeto, non ha caratteristiche tali di tipo comportamentale. Ma guardi che non c'è bisogno adesso di, come dire, di orango di per sé non è un'offesa. Se io vedo passare uno, quello assomiglia a un orango, sì, non è un'offesa. Se non è un ministro, però detto da Calderoli alla Chieng nel modo in cui abbiamo ascoltato, è evidentemente. No, ma scusami, dimmi, Davide. Dimmi. Ma io adesso, scusa se ti ho disturbato, stavi parlando con delle persone. Scusami, sì, no, sono qui con Oscar e Pesaro. No, due, ma scusami, che ci sta portando alla festa. Partito Democratico. No, ma no, va questo, bene, ma fai quello. PD. Sì, ma fai allora quello che devi fare, stavi parlando. Saranno ancora più convinti del mio cosiddetto comunismo che non esiste. Ma lo stereotipo della scimmia come, diciamo, elemento razzista, non è che ce lo stiamo inventando stasera. Se uno legge La difesa della razza, che era la rivista diretta dal signor almirante del Fiordaleggio, allora... Interlandi, ricorda che la scimmia veniva messa proprio come simbolo, no? Dell'evoluzione della specie o involuzione della specie paragonata, sì, ai negri, sì. Quindi è chiaro il riferimento che fa Calderoli, facendo una battuta, mi pare evidente il riferimento. Fortunato da Bergamo, là. Fortunato magari da Bergamo, non alla difesa della razza, che non l'ha mai neanche, ecco, letta, non sa che cos'è. Non c'è, però... Marco da Verona. Marco da Verona. Sì, pronto. Eccoci, buonasera. Dica. Diretta, dica. Bene. Beh, intanto saluti a voi. Che vi stimo molto e vi seguo molto sempre, ogni sera. Grazie, sono un assessore della giunta Tosi a Verona. Tra l'altro, lei è assessore della Lega? Sì, no, un attimo, della lista Tosi, sì. Che è una lista civica. Un attimo, dice lei, un attimo. Dice una roba diversa. Ma le voglio intanto, condivido molto l'intervento di questa mattina del mio sindaco, perché conoscendo Flavio Tosi, che è una persona, secondo me, molto democratica, una persona che ha molta saggezza in questo momento, e io prendo le distanze dalle dichiarazioni di Calderoli, Borghetti, tutte queste persone che a volte senza senso dicono delle cose che vanno ad aggravare situazioni nel momento in cui sono anche tantissime violenze sulle donne. Vabbè, anche lei come Tosi è indignato per Calderoli, giusto? Ma no, sicuramente sì. Voglio anche ricordare che in questa giunta, composta da 10 assessori, 3 siamo di origine meridionale, sono calabrese, c'è un pugliese, c'è anche un siciliano, quindi per capire che assolutamente il nostro sindaco è un sindaco dove non vede la provenienza degli assessori o dei consiglieri comunali, ma sceglie le persone in base a una sua idea, non sicuramente di provenienza o del meridione, e quindi questo fa capire. Scusi, ma lei non si trova un po' in imbarazzo a stare con la Lega che non condanna Calderoli, anzi dice che era solo una battuta, che si è scusato e dunque andiamo avanti così? Non si vergogna un po', caro Marco, assessore allo sport, guardi, della giunta Tosi? Sinceramente, io ho condiviso l'intervento del mio sindaco. D'accordo, lei condivide Tosi e lei è assessore di Tosi, no, ma non ma si vergogna un po', sì o no? Cioè, certamente sì, io prendo le distanze perché. E si vergogna un po'. Mi vergogno perché offendere una donna non è mai piacevole. Intanto. Dunque, si vergogna a stare con la Lega, diciamo la verità. No, non mi vergogno, no, questo no, perché io non ho nulla a che vedere con la posizione che esprime. Beh, ho capito, Calderoli. Però la Lega non ha condannato Calderoli. La Lega, lei è alleato con la Lega. Ma non le dichiarazioni del mio sindaco questa mattina sono state di condanna. Cioè, lei si fida più di Tosi che della Lega, questa è la sostanza. Assolutamente sì, Tosi è un'altra cosa, per fortuna. Anzi, Tosi se ne è un'altra cosa, l'ha dimostrato tantissime volte, prendendo distanze anche dal governo Berlusconi su alcune cose, ha avuto coraggio e quindi io apprezzo questa persona e resto in giunta e sono in giunta con lui. Ma lei non si vergogna un po' della Lega che non condanna a sufficienza Calderoli, no? Sì, assolutamente sì. Sì, io mi vergogno perché io disprezzo verso nei confronti di ogni ministro, ma verso una donna quello mi dà fastidio, perché è il momento difficile che sta attraversando. Però lei è alleato della Lega che attacca la Chieng, anche alleato. Guardi, io sono alleato del sindaco Tosi, che è un'altra cosa. Beh, quello però è Tosi, è un esponente della Lega, non è proprio un'altra cosa. Guardi, io mi auguro che la Lega con Tosi possa avere una svolta, perché se no, continuando in questo modo, i risultati non arrivano neanche. Grazie Marco. Silvano da Vicenza, sempre dal Veneto. Silvano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Le premetto che io sono di sinistra. Sì. Comunque volevo dire una cosa. Calderoli ha sbagliato 3 volte per me. La prima volta che con la legge elettorale, la famosa porcata, no, i partiti hanno potuto inserire in Parlamento, al Senato e anche nominare ministri persone che non sono state elette dal popolo. Prima cosa. Perciò quella ministra non è stata eletta dal popolo, è stata messa dal partito che faceva parte. Vabbè, poi? Poi, per quanto riguarda il discorso delle sembianze, sì, no, la nera che mi abita nell'appartamento accanto, che fa la puttana nel vero senso della parola, no, io la vedo come un Australopithecus afarensis. Come una? Australopithecus afarensis. Cioè, lei ha presente l'evoluzione che diceva prima il signore di prima, no? Nella scala degli ominidi, è il primo ominide. Ecco. No, non ho capito niente, scusi, mi spieghi meglio, perché noi qui siamo abbastanza basici, cioè, mi vuole spiegare cosa sta dicendo Silvano? Cioè, le sembianze esteticamente del viso, sì, sembrano quello di Lucy, la famosa Australopithecus afarensis, quella che è stata, sono state trovate le ossa in Africa. Ah, ho capito. Ma questo ha avuto un'infanzia difficile. Cioè, non ho capito, Silvano, cioè dei nostri antenati, dei nostri... No, da quella sembianza, perché la ricostruzione fatta scientificamente del sì. personaggio gli assomiglia, cioè ha il viso così, non c'è niente da fare, non è offesa, ha quelle sembianze. Mm. Cioè, non è che voglio... Mi dica esattamente quali sono le sembianze che sono vado a cercare della... Australopithecus sì. afarensis. Grazie Silvano, grazie. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Bene, Piero da Firenze, buonasera. Sì, ciao, buonasera. Mi sembra ci si stia pigliando per le mele, perché qui siamo andati a parlare di Darwin, specie. Allora, quando io vado allo stadio, vedo... Giovinco? Quando lei va allo stadio? Sì. Sto di nano e non succede niente. Vado Balotelli, gli fa bu e mi sospendono. Allora è segno, è una ragione, cioè, ma questi sono dei legislatori. Ma come fanno a proibirmi a me di buttare le noccioline a Balotelli e di dare di mano a Giovinco? Cioè, perché nello stesso tempo di difendere il comportamento. Ho capito, ma perché lei che dà le noccioline? Dalle... Ci sta pigliando per le mele. Ah, lei sta dicendo, siccome si sanziona il razzismo nei confronti di Balotelli, perché non bisognerebbe sanzionare anche Calderoli, no? E non posso essere lo stesso. Va bene, abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Le cazzate di Calderoli una per una. Iniziamo da che cosa? L'incendio, leggi inutili. Un rogo simbolico che sia anche di monito all'Europa, alle regioni, agli enti locali, perché si semplifichi la vita della gente e non la si complichi come invece è accaduto fino ad oggi. Fece un grande rogo, ma la legislazione italiana è più complicata di prima. La porcata alla legge elettorale. È d'accordo anche lei, pur essendo estensore, co-estensore della legge, che andrebbero reintrodotte poi le preferenze, se no diventa un proporzionale nel maggioritario con nomine. Ma guardi, questa legge qua la scriveva una porcata, ne glielo dico francamente. Ho sentito bene? È una porcata. La scritta lei è una porcata. Sì, sì. Oh, tra l'altro Calderoli, sempre nel famoso comizio, ha detto la Chieng era al ristorante con Ingroia la sera prima e sono usciti alticci dal ristorante. Sentiamo. Non mi sembra che sia andata benissimo la manifestazione, ma ha detto c'era qualche centinaio di extracomunitari a sostenere. Mi hanno detto che è venuto anche... il, non lo so se sia più un magistrato o no, anche Ingroia è venuto. Insomma, ha riferito che la sera era in via Guglielmo d'Anzano a mangiare, ma soprattutto a bere, sono usciti soprattutto tutti artici. Questa è la posizione che hanno rispetto all'immigrazione. Siamo qui 800 24 0024, Paola da Roma. Paola, buonasera. Paola. Paola. Oddio, che disastro. Paola. Dove sta Paola? Sto a Roma. Ho capito, ma prenda il telefono e lo accosti bene. Si tolga dal viva voce o dalle cuffie, altrimenti chiudiamo la comunicazione. Ok. Vabbè, arrivederci. Fortunato da Bergamo, buonasera. Fortunato? Sì. Su, andiamo, dai. Volevo sapere dal signor David Parenzo perché ce l'ha tanto con i bergamaschi di Bergen. Ma no, con i bergamaschi, uso lo stesso stereotipo che usano i leghisti, no? i leghisti non usano lo stereotipo rispetto ai meridionali, rispetto agli immigrati che sono, e io faccio lo stesso, uso lo stereotipo sui bergamaschi e lo utilizzo allo stesso modo, pari, stesse armi. Non sbeffeggiare una signora che aveva una cadenza bergamasca, che poi non era, certo, neanche bergamasca. Ma io penso che bisogna guardare i contenuti, non alle cadenze. Vabbè, ma io penso ad esempio che si dica uno negro è un negro, eh. A Bergamo è così, vede, eh. Quando fa così, ecco, vede, fa, quando fa così, voi probabilmente abbiamo dato i datari a Gaetano Donizetti, Angelo Roncalli, Andrea Gavazzelli. Sì, Fortunato, ma guardi che esiste, esiste l'ironia e la presa per il culo nella vita, esiste l'ironia e la presa per il culo, ha capito o no? Sì, lo so. E allora basta, su. Quando va bene, Bergamo è la capitale italiana della solidarietà. Sì. L'Aido è nata a Bergamo. Ma sono stereotipi. Oh, lei non capisce, stereotipi, però è gente che lavora alle 5 del mattino già sull'autostrada tra Bergamo e Milano, so, è pieno bene di pulmini che vanno, di lavoratori che vanno a fare il muratore. Ma lo so bene, io stesso sono del nord, ma lo so benissimo. E allora, Fortunato, no? Allora finiamola dei luoghi comuni, del Bergen, de Sura, Bergen, de Sota, Bergen. Finiamola con questi stereotipi, rispettiamo di più le persone. Faccio la stessa cosa che qualcuno fa nei confronti degli immigrati, descrivendoli tutti come assassini, approfittatori, ladri, stupratori. Siccome lo stesso stereotipo viene applicato agli immigrati, io ho detto uso lo stesso sistema e lo faccio con quella signora che bergamasca in quel caso, ma che faceva la razzistella, e ho usato lo stesso sfottò che usano, uguale, identico. Leda da Modena, buonasera. Leda. Ragazzi, ma siete tutti in collegamento con gli auricolari? Su, dai, sveglia, Leda! Sì, buonasera. Buonasera, sarò un corno. Molto breve. Sì. Sarò molto breve. Volevo fare alcune osservazioni su Parenzo. Sì, alcune osservazioni mi pare troppo. No, cioè... Ma lei com'è collegata? Con l'auricolare, col viva voce? Con che con l'auricolare. Mi con dà... l'auricolare. Mette quel diavolo di telefono vicino alla bocca invece dall'auricolare, perché se no sentiamo male. Ma come lo devo dire? In aramaico, in ebraico, in turkmeno, come lo devo dire? Oh, sente? La sento benissimo. No, volevo dire che è una persona indottrinata. Sì. Indottrinata, lui non riesce a rielaborare un pensiero oggettivo. Quindi la Confindustria parla di merito, io mi chiedo perché paga Parenzo. Senta, ma si faccia i cazzi suoi. Ma perché non si fa i cazzi suoi lei? Ma che ha fatto sta Leda? Ha abbassato? Ha chiuso. Perché non si fa i cazzi suoi? Chi è pagato da chi? Ma che gliene frega a lei chi è pagato da chi? Che gliene frega lei? Invidiosa? È invidiosa che uno viene pagato per parlare come Parenzo? È invidiosa, cara Leda? Tina, provincia di Milano, su. Pronto? Dica. Buonasera dottor Cruciani. Sì. Ecco, mi chiedevo perché mai il napoletano non si indigna prima di tutto per i costi del Quirinale che costa 26.000 euro all'ora. Non c'entra nulla, dai Tina, non diciamo stupidaggini, dai. I nostri marò che sono in India e facciamo ridere tutto il mondo per questa storia. Dovrebbe... Si indignerà pure per quello, si interesserà anche di quello. 28 miliardi dell'evasione fiscale, di queste cose deve indignarsi un presidente, anche di queste stupidaggini. Cioè, non ho capito, a lei non fa nessuna impressione che Calderoli, vicepresidente del Senato, definisca... No, bene, che nessuno offende nessuno, però visto quello che è stato detto su Brunetta, su Bossi, sulla malattia di Bossi, ne hanno fatto una pelle, quindi a questo punto dovrebbero stare tutti zitti e smetterla tutti di prendersela con gli altri. Non sono d'accordo con quello che ha detto Calderoli, però il presidente vorrei che si indigni per delle cose anche più serie, non è d'accordo con me. Oh. Ma guardi, ma dai, ci sono i nove, sono alla disperazione per trovare 5 miliardi, dottor Cruciani, perché non sanno come fare. Ho capito Tina. Ma che allora ci sono 98 miliardi delle zone machine che nessuno riesce a far tirar fuori. Mi dica lei Tina, come mai. Ma se un presidente della Repubblica non si interessa del fatto che il vicepresidente del Senato dei costi del Quirinale, scusi, costa 4 volte Buckingham Palace, ha 1807 dipendenti, ma perché non si indigna di queste cose napoletano? No, dovrebbe fare, ha risparmiato dica, qualcosina, poco. Fare una bella indagine, infatti intervistate qualcuno, fate venire, visto che avete sempre degli interlocutori più che attendibili. Va bene Tina, grazie. Carlo da Roma, interlocutore attendibile, non brivido. Una voce fuori dal coro. voi vi state occupando di fumo, questa è una cortina fumogena che è stata pianificata a tavolino. In che senso? Serviva levare dalle giornali lo scandalo dell'operazione della signora. Ma guardi che se ne parla comunque della vicenda kazaka. Adesso il governo riferirà, stanno facendo un'indagine interna, cioè c'è una mozione di sfiducia nei confronti di Alfano, se ne parla comunque. Perché questa cazzata dite e continuate a dire sul fatto che questa vicenda di Calderoli serve a coprire? Io non ho comprato il fatto stamattina, me lo no, compro, il fatto, no, il fatto, sto dicendo perché si continua a dire la notizia. No, perché se fosse normale la ministra Chiang dava le sue belle dimissioni e se ne andava da questo paese, invece no, rimane perché lei non vuole, non può, non deve, è tutto finto, è tutto pianificato. Ma perché ci dovrebbe dimettere, scusi? Per l'offesa ricevuta da un eminente e autorevole uomo politico di questo paese, vicepresidente. Ma perché si dovrebbe dimettere? Non ho capito perché si dovrebbe dimettere la Chiang, scusi? Per un'offesa personale ricevuta. Ma che c'entra? Uno riceve un'offesa e si dimette, ma lei è lei. No. Per dare la dimensione dell'offesa ricevuta. Cioè uno viene offeso, ma eccetera, e si dimette, ma lei è malato di mente. Lascio le chiavi di questo paese a voi e me ne vado. Sì, per una frase di Calderoli si dimette la Chiang, ma guarda, lei è malato, cioè, non... Avrò un mio modo di vedere, infatti ho detto all'apertura una voce fuori dal coro. Ma non è che fuori dal coro, è dentro la follia. È fuori di testa, cioè non è che si dimette lei per le frasi di Calderoli, scusi un attimo. Avrò fatto una giornata di lavoro faticoso allora. Può darsi, grazie. Gian Pietro da Verona, buonasera. Buonasera a tutti quanti, finalmente sono contento perché ho preso la linea con due fenomeni della radio come lei e come Parenzo. Vabbè, non ci pigli per il culo adesso, su Giampiero. No, ma non piglio per il culo nessuno, anche perché io sono pigliato per il culo da 1000 deputati, se piglio per il culo due radiofonici non è un problema. No, cioè, ma infatti allora, non è un problema, basta essere chiari però. Esatto, infatti. Comunque non è la questione di prendere per il culo, perché sicuramente avete una notevole intelligenza, siamo nel libero mercato. Ma non lo so, e se avete una notevole intelligenza di fare radio bene, ma anche intelligente a volte. Gian Pietro, non ce ne frega niente di questi finti. Però c'è un po' limite a tutto. In che senso? Allora, io non è che posso arrabbiarmi perché ho un leghista che va in giro a dire a un ministro che è un orango, perché c'è della gente che è convinta che siccome sia un orango sia una stupida. Perché la Chiang a me preoccupa che non faccia niente o che l'abbiano messo come ministro dell'immigrazione. Vabbè. Quando non ha nessun merito per esserlo. Non vabbè, tanto non conta, tanto non conta nulla il ministero dell'integrazione. Beh, anche vero quello. Però, francamente, che tutte le volte che quando parla un leghista scoppia un clamore incredibile. Ma dipende quello che dice. Che il problema sia quello che dice quel deficiente di leghista di turno. Oh, ma perché siete così ben altristi? Personaggi in tutti i partiti in Italia che sparano di quelle cagate che sono pazzesche. Certo, e allora? Allora, se per cortesia qualche volta non facciamo vedere al dottor Cruciani che gli sta sulle scatole la Lega, ma e no, parlasse anche degli altri, guardi, magari... Guardi, a me la Lega non sta affatto sulle scatole, non me ne frega niente né della Lega né del PD né del PDL, io sto alle cose che vengono dette, il resto non me ne può fregare di meno. Dall'amaca, direttamente dalla sua amaca, dormiva Filippo Facci, buonasera. Sì, buonasera. Dormiva, era sull'amaca e dormiva, perché alle 20:40, esatto. Alle 20:43 di lunedì dorme, perché dopo una giornata di lavoro faticosissimo gli veniva da dormire. Io voglio bene a Facci, ma uno che dorme alle 8 alle 9 meno un quarto. Scusa, guarda Parenzo, a uno che alle 9 meno un quarto di sera di un lunedì di fine luglio se ne sta sull'amaca in giardino a oziare, no, non si deve giustificare lui, sei tu devi giustificarti perché sei lì a lavorare come uno scemo, scusa. No, tra l'altro uno che sta alle 9 meno un quarto della sera o soffre di emorroidi perché sta sulla maca e allora c'è grande rispetto, oppure è un lavoratore come te che sta sulla maca alle 9 meno un quarto, lui che giustifica è l'emorroidi. Insomma, tra uno che sta in una situazione invidiabile e uno che sta a lavorare come un oddio, come un nero, voglio dire, chi è che si deve giustificare? Cioè, io non mi devo giustificare, devo sentirmi in colpa perché sto sulla maca. Ma siamo in tra partiti. L'altro, devi sapere, caro David, che è sulla maca a casa sua, però, perché ha un giardino in casa, una cosa spettacolare. A casa di Filippo Facci a Milano, una cosa col giardino dentro casa, ma non giardino normale, perché casa sua non è un giardino al piano terra. Si chiama giardino pensile. Giardino pensile, una cosa. Posso darti una notizia al volo? Qual è la notizia? Sto in questo momento entrando alla festa del Partito Democratico. Che divertimento! Con il grande Oscar, cioè sto portando Giannino alla festa del PD. Non è presentare un libro, la normalità è questa, capito? Secondo Parenzo, la normalità è questa. Lui non deve spiegarci che accidenti va a fare con Giannino alla festa del PD. Io devo spiegare perché posso stare sull'amaca. Vabbè. Comunque, l'amaca avete è chiamato per questo. Che piano è l'amaca? È a casa tua, che piano? Al terzo piano con giardino? Al quarto, al quinto. Cioè, hai attrezzato? Dillo. Spiega a tutti. C'è Michele Serra che ci ha fatto una rubrica che si chiama Lama, che io devo spiegare, voglio dire, se vabbè, ma insomma. Vabbè, comunque tu hai il giardino costruito dentro casa. Perché mi tediate con che cosa? Ti tediamo succede? Perché hai scritto oggi su Twitter una cosa, però effettivamente la Chiang assomiglia a un orango, più o meno è scritto così. Giusto per, come dire... Sì, poi è venuto fuori un pieno, perché in effetti è una frase che messa così, se non la spieghi. Ma che devi spiegare? C'è molto da spiegare, scusa. Che c'è da spiegare, scusami. No, c'è da spiegare, perché se no, che assomiglia vagamente a un orango potrebbe anche essere vero, così come può essere vero che Calderoli assomiglia a un bulldog o Parenzo a un pappagallino del Brasile, voglio dire. Il punto non è questo, il punto è che a forza di fare gli antirazzisti si rischia di fare i razzisti all'incontrario, insomma. C'è una cosa semplice che sembra difficilissima da capire, cioè che insomma se esistessero anche effettivamente dei razzisti, non è che li si combatte contrapponendogli un altro esercito di antirazzismo, cioè di razzisti che prende verso l'uscita la Lega di Calderoli di Treviglio, ne fa diventare una bomba mediatica internazionale. Cioè le guerre già vinte non si combattono. Non è che se noi avessimo 10 ministri come la Chienge, non so pronunciarlo, sarebbe sconfitto il razzismo. Sarà sconfitto quando l'etnia originaria di una persona sarà irrilevante completamente, al pari delle battute di Calderoli. Cioè, scusami Filippo, però torniamo all'origine. Sì. Perché poi tu hai scritto assomiglia a un orango, pace, ma davvero se tu la guardi uno pensa all'orango? Ma non è che per forza pensa a un orango, ma però è chiaro che Calderoli forse, anche non so se è chiaro, però è probabile che l'abbia fatta in forma dispregiativa, però sicuramente insomma non so se è presente un orango, ecco. Così come, ripeto, non so se è presente un bulldog. Se uno vuole vedere, c'ha la fissa dei leghisti, ci vede, li associa a quello che vuole, li associa degli animali. No, però sicuramente, però non ti tirare indietro, tu è un po', allora vuoi che ti dica che è una vaga somiglianza tra se vai a vedere la forma del viso degli oranghi, vagamente c'è una somiglianza. Allora, giusto per mettere le cose in chiaro. Traffico, torniamo subito. Parenzo dalla festa dell'Unità, dove ha portato Giannino. Filippo Facci dall'amaca di casa sua, giardino al quarto piano. Io l'ho visto, voi no. Traffico. Siamo qui con David Parenzo, Festa dell'Unità a Roma, e Filippo Facci, giustamente dall'amaca a casa sua dove dormicchiava alle 20:45, e ha detto che un po' c'è una rassomiglianza tra la Chiang e un orango. Si parla dell'orango? Volevo dire anche altro. Ecco. Che volevi dire? Che volevi dire? Mi avete svegliato prima di congelarmi in questa frase, no? Ecco, faccio come Calderoli. No, eccetera. Mica ho detto che sei come Calderoli. Ma no, è che il punto è che, insomma, tutti dicono razzismo, ma certo antirazzismo, è una forma di razzismo anche quello, visto di spalle, cioè tu te lo ricordi quando hanno eletto Obama, voglio dire che è stato uno straordinario punto d'arrivo da un certo punto di vista. I giornali italiani sono stati quelli che più del mondo hanno comunque si sono soffermati a enfatizzare che un nero era stato eletto di qua, tutta la storia eccetera. Però il vero grande balzo, il prossimo, è non notarlo neanche, perché non serve essere antirazzisti, basta essere normali, non badarci a certe robe di Calderoli, lasciarle macerare a Treviglio nel dimenticatoio della storia, insomma, non so come dirlo. Perché la cosa che secondo me è peggiore, che bisogno c'è di dire però che effettivamente la Chiang assomiglia a un orango? Perché è un fatto oggettivo, lui l'ha detto strumentalmente, però cioè, ripeto, perché allora uno potrebbe dire il caimano, la pitonessa, Cioè, quello che voglio dire io è che ci sono battute che per alcuni aspetti sono peggiori, le battute sui nani sono peggiori di quelle sui neri. Cioè Grillo, perché... Grillo per esempio è peggio di Calderoli. Perché? Perché sì, perché le battute sui nani, ma anche quelle di Travaglio di battute, mirano a un incolpevole difetto fisico, a uno svantaggio innegabile, vero? Mentre le battute sui neri mirano al niente, perché il colore è solo un dettaglio, non ha conseguenze. Il colore della pelle non ti deve impedire di diventare ministro e non ti deve neppure aiutare a fare. Cioè Travaglio ministro, quando fa le battute su Berlusconi e su altri, non solo su Berlusconi, sui difetti le fisici, cioè, basate sono sui difetti nettamente fisici. Peggio di quelle di Calderoli. Travaglio peggio di Calderoli. Ma no, dai, non cercare il titolo, voglio quello che voglio dire. Ho capito, l'hai appena detto. Sì, cioè, ho capito, ma proprio perché l'ho detto, rifatti le parole che ho usato io, non alla traduzione tua. Quello che voglio dire io. Se non stai attento alla traduzione mia, che... abbi il coraggio di quello che dici. Se dici che appunto, allora le battute di Travaglio sono peggio di quelle di Calderoni in alcuni casi. Le battute di battute, le frasi, non battute. Fisi, sì, le uscite, le battute, le considerazioni basate su incolpevoli difetti fisici che sono relativi a uno svantaggio, sono peggio di quelle basate sul colore della pelle, perché il difetto fisico è uno svantaggio innegabile. Il colore della pelle è un dettaglio, cioè, senza conseguenze. Quando Travaglio parla di Ferrara come un ciccione, è peggio di Calderoli sulla Chienghe? Sì, perché lui si capisce che perché è un bastardo che mira a far male e a mirare ai complessi e ai problemi delle persone. Uno che dice nero, siccome non si vergogna di essere nero, essere neri non ha conseguenze negative. Ho capito. Parenzo, chiaro, ci sei o no? Ma è evidente che uno è uno stereotipo storico razzista, cioè dare del dare in questo caso la cosa è talmente, io non dico che sia meglio o peggio, cioè fare battute sui difetti fisici delle persone, ha ragione. Scusa, se ti dico ebreo tu ti offendi? No, dipende come lo dici. Se ti dico ebreo tu non ti offendi, perché normalmente, e tu lo sai, essere ebrei è una connotazione, però scusami, c'è una differenza. Se invece ti dico handicappato tu ti offendi se sei handicappato, perché io miro evidentemente a come posso dire, a picchiare sul tuo punto debole che ti differenzia effettivamente dal resto della società. Cioè quando quando, ripeto, sempre Travaglio dà del nano a Berlusconi, del ciccione a Ferrara e poi chissà quante altre cose, adesso non me lo ricordo, è infinitamente peggio e più violento rispetto a Calderoli che dà dell'orango a... Vabbè. Alla Chienghe. Io capisco che Facci è lì sulla macca con le palle al vento e quindi deve, come dire, deve per forza attaccare Travaglio. No, ho detto una cosa anche vera, cioè fare battute sui difetti fisici è brutto. Qui però parliamo del razzismo evidente di Calderoli. Scusa, non è razzista. Ma non è razzismo, è un'altra cosa. Il razzismo, che cos'è? È una parola che non dovremmo più usare. Perché che cos'è quella di Calderoli allora? È xenofobia, è intolleranza. Perché sia chiaro, è una cazzata. Però voglio dire, a me non piace neanche che se uno va a Treviglio, rispetto, fa una battuta tra i suoi, diventa una bomba mediatica internazionale, con la differenza che, appunto, qual è il fatto? Che il razzismo è anche quello all'incontrario, quello per cui alla fine non fai altro che evidenziare comunque che una persona, in questo caso, è nera. Cioè il punto d'arrivo è dire, ma chi se ne fotte di Calderoli? Ho capito chi se ne fotte di Calderoli. Alcune pagine gli abbiamo dedicato. Ho capito, ma ci fosse il problema del razzismo e la questione razziale degli uomini neri e bianchi. Beh, evidentemente qualcosa c'è, te lo dico io cosa c'è, che domenica non è successo niente e i giornali non sapevano come titolare, questo è successo. Cioè, secondo te, per esempio, Alfano e la vicenda kazaka sono cose infinitamente più importanti? Assolutamente sì, lì veramente ci sono in ballo i diritti umani sul serio, non è una battaglia vinta, Alfano, quella, è una battaglia da combattere. E Alfano che a sua insaputa si vede sfuggire di mano queste kazake, ci credi o no? No. Spero di no. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Ciao. Domenico, provincia di Cuneo. Allora, ciao Bruciano, ciao Parenzo. Ciao. Volevo semplicemente dire che secondo me Calderoli ha detto una grossa cazzata, è un razzista, punto uno. Ma cosa volevo dire? Che il fatto che abbia attaccato la Chienghe sia anche un modo di evitare di fare una legge contro l'immigrazione. Questo credo che sia una delle grandi verità. Questo volevo dire. Non ho capito, scusi Domenico. Ah, no, la Lega non vuole fare che cosa? Non ho capito. La legge sull'immigrazione. Ma questo, quale immigrazione? La legge sulla cittadinanza, dice. Sì, cittadinanza, certo, sì, scusi. Comunque, va bene, grazie. Non si vuole affrontare questa legge qua, appunto. Va bene, Antonio da Latina. Salve Cruciani, grazie. Allora? Grazie, la posso mettere alla prova? Mi mette alla prova, avanti. Allora, ma il suo saltimbanco, no? Il dottor Parenzo. Sì. Cosa va a fare lì a... Lavorare, sono affari suoi, vengo a presentare un libro e poi Tobias Devi su Napolitano, così Giannino non ce ne frega niente con chi stai. Ci sentiamo domani 18:30. Fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente. Risparmiare si può. Stazioni di servizio Costantin. Dove fermarti? Ti conviene. Vi ha presentato La Zanzara.